Cosa fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto, radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi? Indovinello, chi è quel politico italiano di centrodestra che preferisce Peppino Di Capri a un musicista americano, un cantante americano recentemente scomparso? Cominciava la festa. Beh, devo dire però che molti italiani preferiscono Peppino Di Capri a questo cantante americano recentemente scomparso. Allora, tu lo sai chi è Parenzo, no? Il signor Lou Reed. Sì, d'accordo, quello è quello scomparso. Take a Walk on the Wild Side. Sì, ma chi è il politico italiano che preferisce Peppino Di Capri a Lou Reed? Lo sai o no? No, non mi occupo. Mamma mia, non sai un cazzo. Non pensavo volessi, parlare del Data Gate. Non segui nulla. Ricordo di Federico Fellini. Non capisci un cazzo. Ma nulla, nulla. Allora, ha scritto un tweet, una preghiera e un ricordo per Lou Reed. Ma c'era un mondo che preferiva Peppino Di Capri. Viva la DC! Ma quale? Gianfranco Rotondi, il nostro amico Rotondi! Dai, su! Beh, fondamentale. Il signor Rotondi. C'era un mondo che preferiva Peppino Di Capri. Sì, vabbè, d'accordo, però insomma, è morto Lou Reed, però non Peppino Di Capri. Peppino Di Capri è vivo e vegeto. A proposito di grandi famiglie, la Sant'Anche dice che i Berlusconi sono come Clinton e come i Kennedy. Kennedy, certo. Io sarei contenta che fosse Marina. Anche se è la figlia del leader, anche se arrivasse per via ereditaria. Ma gli Stati Uniti d'America, che non credo siano una monarchia, voglio dire, ma i Clinton, i Kennedy. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Grillo! Ha fatto incazzare Tronchetti Provera, che minaccia querele. Ormai tutti minacciano querele, tutti fanno querele. Noi ne abbiamo una montagna. E siamo intercettati dai tempi di Tronchetti. E Tronchetti si è incazzato dicendo che Telecom non ha mai intercettato nessuno. Se siamo intercettati non è mica una novità. Cioè, lei si stupisce già dai tempi di Tronchetti. Tronchetti, c'era un palazzo a Roma, costava 40 milioni di euro a bilancio, c'aveva 100 dipendenti che lavoravano sulle intercettazioni, quindi è stato anche condannato, credo, a un anno e 4 mesi. Incazzatissimo signor Tronchetti, che già con Grillo ha qualche precedente, insomma, signor Tronchetti. Vabbè. E lo chiamava il Tronchetto della felicità all'epoca, signor Grillo. Poi Grillo resta comunque un grandissimo comico. A un certo punto oggi è tornato al Senato. Ieri dice: io immaginavo, qui ho visto la statua di Mazzini. Che quando passa Giovanardi, sentite. Ecco, questa bisogna che sappia il paese di che cosa è diventato il Parlamento, di che cosa è diventato Mazzini, che vede passarsi Giovanardi davanti, dovrebbe buttarsi giù col busto e tutto. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi anche con Gasparri, sentite. Il show è vedere, la televisione si vede, non si sente, non è la radio. Allora, quando tu sei in un talk show e sei dentro un sistema che hai contro, immediatamente lo senti contro, tu hai diverse cose contro. Hai l'immagine, la regia. Tu puoi parlare e magari l'immagine su una gamba che muove o sulla faccia di un altro. Tu puoi dire qualsiasi cosa, che se inquadrano Gasparri così, puoi dire la teoria della relatività, che diventi un idiota perché vicino alla faccia di Gasparri ci rimette chiunque. Ovviamente poteva mancare la risposta di Gasparri, secondo me. Poteva mancare. Sava Sandir. Eccola qui. Allora, ma perché ce l'ha con lei, Gasparri? Non ho idea, insomma, è un che caso... Che lei è il simbolo, che cosa? È un caso umano, di successo, ma è un caso umano, di grande successo, ma è un caso umano, voglio dire, quindi mi occupo di cose serie. Se lui vedesse i suoi rappresentanti... Oh, Annarella gli ha dato del buffone a Grillo, questa mattina, mitica Annarella. Annarella. Zitta la vecchia! Andiamo prima possibile alle elezioni e chiediamo agli italiani, finalmente, volete liberarvi di questa classe politica una volta per tutte? Noi la mia campagna politica è stata fatta tutti a casa. Non parli più, boh! Mi vanno a ingalare a zozzo! No, ce lo devo dire! Silenzio la vecchia! Sempre moderata Annarella. Sì, sì, in realtà lei mi facevano notare oggi girando per Roma che lei fa sempre sentire tutta la vecchia. Sì. In realtà è molto bella anche la parte precedente in cui il signor Sgarbi manda a fanculo la signora anziana di 80 anni. Quella, ecco, però è fondamentale anche quella parte lì. Per carità, no? Non mancherò. Sorparenza. Faccio notare che quella. Quando a una signora di 80 anni il professor critico d'arte dice delle cose, quella è la parte che abbiamo trascurato, me l'hanno fatta notare in tanti oggi, ma chiedo scusa. Vabbè, comunque mandiamo, sei sempre legato a Radio Belva, dai, mandiamolo, dai. Chiedi scusa. Tu non rompere i coglioni che tu, eh? Non rompere il cazzo bene che c'è la rompi cazzo anche tu. Professore Sgarbi, me l'avevano fatto notare oggi. D'Agostino, fondamentale, sempre fondamentale. Ma una carriera incredibile oggi, una carrellata, scusa, incredibile. Professor D'Agostino che dice delle cose su Marina Berlusconi. Sentite, ferocissimo, signor D'Agostino, pieno di tatuaggi, pieno di anelli. La signora Marina Berlusconi se ne sta tranquilla a giocare a Segrate con la Mondadori. Scusa, nessuno ha interrotto. Seconda cosa, di questa Marina Berlusconi sappiamo qualche prodezza a livello imprenditoriale? No, sappiamo solamente quante lifting ha fatto. È sempre il numero uno, signor D'Agostino. Ma dove l'ha detto queste cose, signor D'Agostino? A Piazza Pulita. Senti su Renzi pure, Renzi. Cioè, veramente questo è il più grande sketch comico che ho visto negli ultimi anni. Cioè? Questo della Leopolda. Perché? Perché è un Berlusconi senza soldi, senza oggettine, ma è solamente fuffa, è finto, più di plastica di lui non c'è. A distrugge in cambio, purtroppo, questa storia di Renzi distruggerà il PD. Ventriloquo di Della Valle e Montezemolo, senti. Questo è il nuovo. Ma qual è? Che cosa rappresenta? Non rappresenta nulla. Rappresenta solo lui, il ventriloquo di Della Valle e Montezemolo. Parla solo come loro. Hai parlato tu, non rompere i coglioni a Friedman. Gli diceva così. Hai parlato tu, fino adesso, non rompere i coglioni, dai. Sempre numero uno, mio idolo incontrastato, signor D'Agostino. Abbiamo già un ospite, caro Parenzo. Molto sono bene. Caldissimo, 18:41 800 24 00 24. Prima però voi sapete che ci sono dei miti in Italia, no? Uno di questi miti è, per esempio, il fondatore, vi faccio sentire pochi secondi, il fondatore della Mivar. Te lo ricordi, no? La Mivar, no? I televisori Mivar. Chi non ha avuto un televisore Mivar? Lui era molto fascista, me lo ricordo. Ma come è molto fascista? Senti, un piccolo, quando lo intervistai tempo fa era molto di destra. Sì. Un piccolo pezzettino. Mi sento fascista e faccio il saluto romano. Senti, vedi che lo sapevo. Senti, signor Vicky si chiama, Vicky. Sì, sì. No, la politica, no, io non faccio politica fascista. Mi sento un fascista, ripeto, voi sapete salutare così? Io sì. E fa il saluto romano, 800 24 00 24. La Zanzara inizia così. Abbiamo con noi il senatore Stefano Esposito, Partito Democratico, buonasera. Molto bene. Buonasera, buonasera. Come stai? Io sto bene, combatto. Combatte? Sto bene. Allora, combatte contro Renzi, combatte. Beh, sì, innanzitutto prima lei mi era un po' renziano, poi ha cambiato idea, cioè prima era dalla parte di Renzi, adesso sostiene Cuperlo, è vero? No, ma mai stato renziano io. No, nemmeno un po'. Beh, vicino. Io ho semplicemente detto dopo le elezioni che purtroppo avevo sbagliato a non capire cosa voleva la gente, ma essere renziani ci va un diciamo, lei non ha mai sostenuto Renzi. Non mi è mai capitato di sostenere. E adesso chi sostiene Cuperlo? Sostengo Cuperlo. Sento una cosa, ma mi dica la verità, esiste davvero questo traffico di tessere del Partito Democratico, come lei denuncia, con una specie di capi bastone che sostanzialmente danno i soldi ai immigrati, anziani, per iscriversi e votare per Renzi? Io ho semplicemente raccontato ciò che ho visto davanti al mio circolo. Sono andato a votare, come fanno tutti, e ho raccontato semplicemente ciò che ho visto. Due signori sono arrivati per chiedere la tessera, quando gli è stato comunicato che costava 15 euro, hanno risposto, ma noi hanno detto che non dovevamo pagare, sono usciti, io sono per curiosità sono andato a vedere dove andavano, hanno girato l'angolo e c'era un signore che gli ha dato 15 euro, sono rientrati, si sono rimessi in coda e hanno fatto la tessera. Chi era questo signore che dava 15 euro? Era un iscritto al Partito Democratico. Come si chiama? Il nome è irrilevante. Ma è rilevantissimo. Io al PD voglio ancora un po' bene, quindi ho denunciato la cosa pubblicamente. Lei su Facebook però ha fatto un nome, quello di Salvatore Gallo. No, il nome di Salvatore Gallo io l'ho fatto spiegando prima di questa vicenda che a Torino c'è un signore che si chiama Salvatore Gallo che con una lunga esperienza politica dal 72, socialista eccetera, è socialista, che ha avuto anche qualche guai con la giustizia, ma io sono un serio garantista, e allora? Che ha sempre trafficato in tessere e continua a trafficare anche nel PD. Io sono, ma c'è PD lui dietro questa roba qui, dietro questo, dietro questa cosa qui c'è un suo emulo, come si chiama? È il consigliere Stara, che è stato denunciato in un video pubblicato dal Fatto Quotidiano ieri dai militanti renziani, perché lui è un renziano, di quel circolo, che hanno detto: io ho fatto questa denuncia. Sì, ma chi è il burattino? Adesso, al di là dei nomi, ma c'è un'emulazione. C'è Gallo che c'ha 2000 tessere, no? E a 2000 tessere. I neorenziani, cioè tutti quelli che stanno salendo sul carro, per legittimarsi con Renzi, fanno anche loro la stessa pratica, no? Devono fare tante tessere per dimostrare di essere importanti e potenti. Ma Renzi non fa nulla però per fermarli. Ma guardi, io ho letto pochi minuti fa un'agenzia di Renzi che ha detto: il segretario non si elegge con gli iscritti, inutile gonfiare il tesseramento. Perché il segretario lo eleggiamo con le primarie. Io sono contento di leggere questa dichiarazione. Lo spieghi però ai suoi a Torino, perché a Torino c'è una corsa forsennata a far tessere a 15 euro l'una. Tutti renziani? Ma guardi, i risultati parlano chiaro. Nel mio circolo... Sono tutti renziani, vabbè. E le 111 tessere fatte in un solo giorno, anzi in 5 ore, su 400 votanti, cioè più del 25%, hanno prodotto un effetto che Renzi avrebbe vinto comunque, ma invece che vince con 160 voti ha vinto con 270. Ma è un sistema questo, si può dire che è un sistema? Cioè c'è... Beh, a Torino città purtroppo ci sono due o tre RAS, io ho fatto il nome di Gallo perché lui è un professionista da questo punto di vista. Quindi a Torino è sistemato. Ma ci sono anche uomini di Fassino? Ci sono uomini di Fassino anche? Beh, Gallo è legato a Piero Fassino, e quello che io contesto a Piero Fassino è che Piero Fassino utilizza questo strumento, perché questo, sa come si evita questa pratica? Come? Facendo fare le tessere a Salvatore Gallo e dicendogli: sai cosa c'è, non ci interessano le tue tessere, non ci servono. E invece se lo utilizzi, naturalmente, come la domanda e l'offerta, no? Ma quindi a Torino è un sistema, fanno fare... è un po' come le prostitute in mezzo alla strada. Le prostitute ci sono perché c'è qualcuno che... no, perché c'è la domanda, altrimenti non ci sarebbero, capisce qual è il tema? E allora è evidente che io non voglio stare in un partito che dichiara di essere nuovo, perché io non sostengo Renzi, invece utilizza i metodi, ma fanno fare le tessere pure ai peruviani, agli albanesi, ai romeni, eccetera. Luciani, ci sono denunce pubbliche fatte, non le ho fatte solo io, ad Asti su 800 iscritti, 220 si sono iscritti l'ultimo giorno e sono 220 signori albanesi che lavorano per le aziende edili. E c'è un signore, l'Albania, un imprenditore sia edile, che ha fatto un pullman con 40 dei suoi dipendenti e li ha fatti scendere. Famosi albanesi per Renzi. Chi li governa questi? Ma non li governano dei piccolissimi capi bastoni che adesso sono diventati renziani, che prima venivano utilizzati da altri. Tutti, guarda, io per essere molto laico, Gallo nel precedente congresso sosteneva Bersani. Ho capito. Ma io ho sempre detto che quella pratica lì, io lo contesto da 2 anni questo signore, quella pratica lì si elimina dicendo che non ci interessano quei metodi lì, però vedo che Renzi fa finta di niente. Io siccome sono ancora giovane, ma è 27 anni che di riffo di raffa faccio politica, mi ricordo che Ugo Pecchioli mi spiegava che il metodo del tesseramento socialista avrebbe distrutto il Partito Socialista, e così è stato. Vogliamo distruggere il Partito Democratico? Senta, un'ultima cosa, poi c'è il traffico, ma l'ex socialista La Ganga, condannato ai tempi di Tangentopoli, che è consigliere comunale adesso del Partito Democratico, ma è renziano? Sostiene Renzi. Sostiene Renzi. Traffico, torniamo subito. Silenzio, la vecchia! La Zanzara. scusate se vi ho disturbati. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via. E ancora qua, Simo. Si svegliano per me quando tutto sembra poesia, la cruda verità, le zanzare di casa mia. Sempre D'Agostino, Marina, Berlusconi e Renzi, due sciampisti, eccezionale, D'Agostino. Allora, il problema di Renzi, che è veramente, io lo trovo, capito, è uno sciampista contro un'altra sciampista che sì, è Marina Berlusconi, adesso. Siamo solo a quel livello di fuffa, questo è un paese che veramente, tanto non si andrà a votare, lui faccio, occorrono due anni per andare due a anni votare. Io ammiro un uomo che si può permettere di dire qualsiasi cosa, è questo che ammiro in D'Agostino. Poi si può permettere di dire a Marina Berlusconi è una sciampista, vero, non vero, ovviamente è una definizione così, cioè dicendo che non ha fatto nulla e fa e diciamo gestisce male pure Mondadori, secondo D'Agostino. Però lui può dire quello che vuole con tutti questi anelli pieni di tatuaggi, è fenomenale, numero uno, è il numero uno. Allora, però Esposito, qui non possiamo stare troppo sul generico, lei ha fatto anche nomi, cognomi, per carità, però bisogna dirla chiara. Renzi fa il RAS delle tessere. Diciamola tutta, senatore Esposito, no, su. Sono i neorenziani che fanno il RAS delle tessere per accreditarsi presso di lui. E lui non siccome fa nulla, non sa nulla. Lui al momento dice di non sapere nulla, anzi. Però acchiappa, dichiara, però acchiappa. Però acchiappa, però guardi, sa qual è il problema? Io credo che abbia ragione Baricco. Perché? Baricco l'ha avvertito alla Leopolda, gli ha detto: caro Renzi, fai attenzione perché tutti questi innovatori che saltano sul tuo carro per far finta di cambiare e non cambiare nulla. Questa è una delle ragioni per la quale Renzi dovrebbe avere il coraggio di dire che a lui dei tesseramenti gonfiati, della rincorsa, infatti l'ha detto, un po' l'ha detto, ha detto. E un po' lo dice e poi lascia fare sui territori. Guarda, io l'ho detta così, il problema di Renzi non è Renzi, che su cui si può discutere, sono i renziani, ma non i renziani della prima ora, guardi, sono i neorenziani, perché vede, Giusy La Ganga, sì, che ha una storia politica, io lo rispetto, Giusy, perché nel 92 lui se fosse andato con Berlusconi avrebbe fatto altro che Cicchitto, allora? La carriera di Cicchitto, però è uno di quelli che ti spiega l'innovazione partendo da una storia politica, come dire, di 30 anni. Allora, forse Renzi dovrebbe almeno prendere, come di essere coerente e avere il coraggio di dire che quelli che sono saltati sul suo carro, sì, ben accetti tutti quanti, che però la classe dirigente non sarà di nuovo formata da Fassino, da Franceschini e da tutti quelli che stanno saltando. Senta, sul carro. Senta Esposito, ma lei a proposito, lei è senatore, ma lei è a favore del voto segreto o palese su Berlusconi, sulla decadenza di Berlusconi? Ma io preferirei il voto palese, naturalmente vorrei soltanto che non facciamo palese, leggi, o segreto? No. Palese. Guardi, non voglio cambiare le regole per Berlusconi, va bene? E dunque? Le leggi ad persona, per cui va bene anche il voto segreto, non ho paura del voto va segreto. Va bene anche il voto segreto, cioè se qualcuno lo chiede, lei anche non è perché contrario. Guardi, il voto segreto sarà l'occasione per i grillini per salvare Berlusconi. Ma io lei dice? Beh, no. Sicuro. Ma Beppe Grillo... Perché è il solo modo per far saltare il governo, dice lei. No, è il solo modo per sopravvivere al Movimento 5 Stelle. Se gli tolgono Berlusconi, con chi se la prende Beppe Grillo? Ma adesso se la prende con tutti, in realtà. Su. Sì, però il suo obiettivo... Ma lui riesce ad avere questo mito del PD meno L, solo finché c'è Berlusconi. Finito Berlusconi, lui non sa più cosa inventarsi. È un bravo comico, ma ormai è arrivato Ma questo lo dicono di tutti, cioè che senza Berlusconi molti si devono trovare un altro mestiere. Che c'è, Parenzo? Fanno il tira al piattello con i grillini. Lui dice che è a favore del voto segreto. Sì. E qui si vede la responsabilità di quel che dice, no? Ho capito, quindi, ma non è uno scandalo il voto segreto su Berlusconi. Ma non è uno scandalo. Fa il tira al piattello, ma lei vota la decadenza o no? Sì. Assolutamente sì, si applica la legge, si applica. Mica... Perché il PD sarebbe per il voto palese, caro Esposito, a chi in macchina gli frega il cazzo. Ma sa perché? Perché il PD ha paura di qualunque cosa che non riesce a controllare. Lei mi deve spiegare per quale ragione. Ha paura del segreto, del segreto dell'urna. Le posso dire una cosa, D'Agostino ha detto che si vota tra due anni. Vi posso dire, secondo me, nel giro di qualche settimana ci sarà la crisi di governo. Addirittura. Ci sarà la crisi di governo. Perché questo governo, con questo continuo tira e molla, pochi minuti fa Schifani ha fatto una sceneggiata in aula sulla decadenza di Berlusconi. Cioè? attaccando Grasso, dicendo che Grasso viola le leggi, non tutela Berlusconi. Ma chi è di più tutelato in questo paese di Berlusconi? Ma scusa Cruciani, ma se ci fosse successo a noi, non quello che è successo a Berlusconi, saremmo già in galera, non c'è dubbio. No, ma avrebbero già buttato via la chiave, e forse a me, che sono pure meridionale, ma avrebbero pure appeso. Scusi Esposito, perché lei non è andato a battagliare da Santoro contro i Notab, la Rizzo e Righetto, quando hanno fatto la puntata? Perché quando mi hanno chiesto, quando mi hanno telefonato per invitarmi, ho semplicemente chiesto chi erano gli ospiti. E siccome mi hanno spiegato che erano due pregiudicati, io con i pregiudicati non mi siedo a discutere. Pregiudicati addirittura? Però uno può rispondere, lei sta al governo con un pregiudicato. Appunto. Io sto al governo con un pregiudicato insieme ad altri 700. Cioè non è la stessa 700. Cosa, dice lei, non andare, andare a fare un confronto con due che sostengono... Io un confronto su un tema così delicato con due persone pregiudicate che passano il tempo ad attaccare la procura di Torino, che insultano i poliziotti, che ne dicono di tutti i colori, ma abbia pazienza, posso dire, credo non merito, non per me stesso, ma il rispetto per quelle persone lì, e quindi non ci sono andato. Purtroppo il mio partito ha mandato un simpatico ragazzo che non è riuscito neanche a rispondere alla domanda più ovvia. Cioè quale? Più ovvia. Quale? A che cosa signor serve Carbone? A che cosa serve il buco che state scavando? Non è riuscito a rispondere. Cioè, non dico sapevo un cazzo, signor Carbone, non l'hai preparato. Dico io, se vai in televisione sul tema della TAV, ti vuoi almeno informare? Niente. E questo è il livello, diciamo, che abbiamo. Per 10 minuti di notorietà ammazzerebbero probabilmente anche la mamma. Ma chi ce l'ha mandato? Ma non chi è vero. Ce l'ha mandato? Signor Carbone, non difendere Carbone, che amico tuo. Non difendere Carbone. È bravissimo, Carbone. Signor Carbone. Chi ce l'ha mandato là? Chi ce l'ha mandato? Ah, non ho idea. Gli avranno telefonato e lui è andato. Non ho idea. Cioè, non ho idea. È stato messo sotto da due pregiudicati, dice lei. È stato messo sotto da due pregiudicati che sono i capi di un centro sociale. C'è gente che non sa neanche. Beh, come vabbè, si ma fa giusto confrontarsi con tutti, però scusi. Che hanno come unico sport quello di prendere qualche pietra e tirare addosso ai poliziotti, e lui si fa fregare sull'unica domanda banale. A che cosa serve il buco che stiamo scavando? Scusi, lei invece di avrebbe chiamato i carabinieri invece di invitare una trasmissione. Bisognava far venire una camionetta dei carabinieri carità, Santoro fa una trasmissione e ha scelto di dar voce a due pregiudicati del movimento Notav. Tra l'altro poteva chiamare qualche amministratore Notav, non c'era bisogno di chiamare. Ma l'avevano invitata lei o no? Sì, non c'è andato, ma io l'ho chiesto adesso. Ma che sei sordo? Vabbè, Esposito, devo chiudere. Giornale radio, grazie. Ormai è tutto degradato. Ormai. La Zanzara. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Mattia Mor, imprenditore renziano che si vergogna. Non è che si può riprendere le danze con questo Mughini. Mughini, gentilmente puoi portare il tuo cane fuori dalle palle quando vai al ristorante? Dicevo di Mattia Mor, imprenditore renziano che si vergogna di Berlusconi. Sentiamolo prima su Berlusconi, poi vi offro un duello con la Sant'Anche ieri Piazza Pulita, fra poco anche la Zanzara. Quando un'azienda piccola come la mia o anche aziende più grandi cercano di andare all'estero per esportare, o quando un giovane va a Londra per cercare lavoro dopo la laurea, deve fare una doppia fatica da questo punto di vista per poter anche togliersi quest'aura di ridicolo che gli è messa addosso. Vabbè, la solita cosa del ridicolo di Berlusconi, eccetera eccetera. Duello con la Sant'Anche. Quando andiamo all'estero ci troviamo davanti allo scherno per quello che Berlusconi ha rappresentato, con la sua immoralità, con la sua inaffidabilità. Non ma lui questo sta dicendo, io sto dicendo quello. Scusami D'Agostino, però questo un imprenditore di sinistra che dice delle cose di una parte politica, certo. Allora se lei vuol fare l'informazione prendiamo io le lascio dire la sua, no, no, su questo, no, e poi voglio sentire Alan Friedman. No scusi. Io credo, scusi, che lei intanto come imprenditore abbia niente da insegnare a Silvio Berlusconi, che credo che un imprenditore sia stato un pochino più bravo di lei. 56.000 posti di lavoro. Sicuramente ha fatto dei risultati, scusi, che non ho raggiunto. Berlusconi, io mi vergogno quando sento dire che Berlusconi è il più grande imprenditore italiano. Niente, perché mi vergogno. Lei quando parla non di sai cosa mi vergogno. Italiano, gli imprenditori italiani sono imprenditori che competono e che crescono. Che no, io non devo imparare da Berlusconi. Io mi vergogno di imparare a Berlusconi. La televisione commerciale l'ha copiata dagli Stati Uniti, ma io da Berlusconi non devo imparare niente. Se la sciacqui lei quando parla con me, per favore. Ho capito, io parlo di politica, parlo di impresa. Intanto Biancofiore PDL, protagonista del disastro in Trentino, invoca che cosa? Sentite, sentite voi che siete in macchina, un grillismo azzurro da opporre ai cultori del politicamente corretto e della poltrona. Avete capito qualcosa? La supercazzola, titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Voto segreto palese, il PDL frena ancora la giunta, la Severino non retroattiva, slitta la decisione dell'Aula, bocciata proposta 5 Stelle per votare subito. Le motivazioni della sentenza Mediaset, Berlusconi ideola frode fiscale aggravata da ruolo politico e l'ex Premier ha perseverato nel reato. Il Cavaliere torna a minacciare la crisi, Letta risolva la questione della retroattività o il governo cade. La manovra va corretta, Schifani al TG3. Grillo in Senato assiste ai lavori dell'Aula, nuovo attacco al governo, Letta e i suoi ministri dicono solo balle, sono loro a creare instabilità. Epifani, riduzione delle tasse sul lavoro, cominciando dalle fasce più deboli, intollerabile una service tax che non sia progressiva. Corte dei Conti e Banca Italia criticano la manovra, modesti tagli al cuneo fiscale, Saccomanni possibili detrazioni sulla TASI, Istat poveri raddoppiati. Mentre monta il caso Datagate, si scopre che al G20 di San Pietroburgo i russi regalarono gadget spia informatici ai partecipanti, smentita del Cremlino. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guarda avanti. Notizie da Radio Padania, caro Parenzo, sono sempre notizie, no, sono sempre belle notizie, diciamo la verità. Questa volta protagonista De Gustibus. Questa volta protagonista delle follie di Radio Padania. Chi è il Dio Po, gente con le corna, delle intemerate di Radio Padania è Sammy Varin. Sammy Varin, tu sai che Sammy Varin è un, non è un extracomunitario, non è un rom, non è uno zingaro. Il nome di battesimo è Sammy. Sammy Varin, sì, non so se sia il suo. Poi tutto attaccato Sammy Varin, una parola unica. Sì, è un conduttore di Radio Padania. Come sai? Ma non è un reato. No, no, no, no. Il quale dice, parla dell'effetto boomerang del migrante, proprio così, senti. È certo che migrano, il problema è che, te l'ho detto, c'è il famoso effetto boomerang del migrante, no? Per cui noi poi lo vorremmo rilanciare in Europa una volta approdato in Italia, quindi fium, tiri il boomerang verso l'Europa, ma dopo l'Europa ce lo riporta indietro. Perché? Perché ha delle leggi sull'immigrazione molto più potenti della nostra. Vorrei vederli ciabattare, si vede ciabattare gli extracomunitari con i soldi della Chiesa. Senti che attacco alla Chiesa, ciabattare con i soldi della Chiesa. Questo è il nostro futuro, vederli ciabattare avanti e indietro, aiutati da tutte le associazioni caritatevoli, soprattutto dalla Chiesa, con le vostre offerte. La cosa mi dispiace tantissimo, perché sinceramente un'offerta alla Chiesa la si dà sempre, soprattutto si aiuta la nostra gente, quella che non ce la fa più. Ma l'idea che ora, ed è ufficiale, le offerte della Chiesa andranno tutte quante ai migranti, i migranti che migrano, flap flap, verranno accolti in tutte le chiese vuote o comunque nei conventi dove c'è spazio. Il nostro futuro è deciso da una negra. Questo è il pezzo più forte. Nostro futuro è deciso da una negra, dice il conduttore di Radio Padania. Adesso, che sia negra è negra, che il nostro futuro sia deciso dalla signora Chieng, lo puoi credere solo tu, caro Sammy Varin, che non sei un extracomunitario, uno zingaro, uno rom, bensì il conduttore di Radio Padania. Perché per fortuna, dico io, non è che c'è solo la signora Chieng a decidere il nostro futuro, è quella che tu chiami negra. Noi non valiamo niente. La nostra Italia deve cambiare identità, dice la Chieng. Voi ditemi un po', se questo è il nostro futuro e questo futuro deve essere deciso da una negra, tutto va bene? Vi piace questa cosa? Fatecelo sapere. Pronto? Servi di Roma. Pronto? Questo è Radio Razzismo. Chiamate, insultate un negro, prendete a calci un rom. Senza dubbi né ripensamenti, Padania sempre libera, guarda avanti. Vuoi prendere a calci un rom? Vuoi insultare un negro di merda? Senza dubbi né ripensamenti, ma dai, ma dai. Il dibattito nel Partito Democratico è arrivato. Non dici niente tu. Aspetta, niente. Il dibattito. Aspetta. Ah. Lui manda il signor Sami Varin. Cari Varin, come si chiama? Sami, non cane Varin, Sami no, Varin. Gary Varin. No, non storpiare i nomi, non storpiare i nomi. Allora, prendi posizione con coraggio, dibattito. Schiena diritta, di cosa pensi di questo razzismo che on air. La parola negra è stata utilizzata con un certo disprezzo, devo dire la verità. Io la utilizzo in modo normale, lui la utilizza con disprezzo. Con coraggio, tira fuori la schiena diritta, faccia pulita. Allora, intanto nel PD si parla di Birnalisi. Renzi ha mandato addirittura un mazzo di fiori a Birnalisi perché D'Alema lo ha paragonato a Birnalisi. Senso dispregiativo, dicendo no. Può dire di tutto con quella bocca, ce l'ha come Birnalisi. Beh, sì, insomma, D'Alema non è. Come apprezzamento. Bah, insomma. Servi di Roma fuori. Qualcun altro parla addirittura di D'Alema come Nilla Pizzi. Vabbè. Marco da Milano 800240024 non è Marco da Milano dell'Espresso, scusa, no, scusa. È Marco che chiama da Milano, Marco. Pronto? Dica. Ah, buonasera, signor Cruciani e signor Parenzo. Io volevo dire, io mi deve lasciare 15 minuti perché no, 15 minuti se lo posso 15 minuti. Se lo può scordare. No, volevo dire, allora, al signor Brunetta che continua a insistere su questi stipendi alti, la Rai. C'è stato un certo signor Berlusconi che negli anni '80 è arrivato a fare contratti miliardari. Sì, diciamo che Brunetta, non voglio difendere Brunetta perché si difende benissimo solo, però parla della televisione pubblica, non è che parla di quella privata. I privati sì, danno, ma dico, è venuto Berlusconi danno il cazzo di soldi che vogliono. Lei dice il mercato l'ha drogato, il mercato l'ha drogato Berlusconi. Vabbè, questo. Ecco, uno, questa. Vabbè, poi Gaspari vuole scrivervi con l'Uniposca in fronte quanto guadagna lui, quanto guadagnerà e quanto guadagnerà con la pensione, e poi vorrei scrivervi anche cosa ha fatto in questi anni, sono Gasparri che parla anche lui di queste cose. Va bene, però la cosa più importante volevo dirle a lei, per quanto riguarda la TAV, vedo che lei è un po' ossessionato da questi ragazzi che protestano, queste persone. Non sono ossessionato, me ne fotto, non sono ossessionato. Vabbè, mi sembrava un po' ossessionato. No, io volevo dire. Ma non che sono ossessionato, sono ossessionati loro, no io. A me no, me ne. E loro sono ossessionati perché arrivano qui, arrivano queste persone che diciamo fanno buchi, spaccano tutto, arrivano e lì rovinano il loro territorio, giusto? E quindi queste persone vabbè, protestano. Marco, ho capito. Grazie, Maurizio da Roma. Maurizio da Roma. Pronto, ciao, buonasera, sono Maurizio da Roma. Dimmi Maurizio, dimmi. Ascolta, io mi sono incazzato prima con Esposito in un modo bestiale. Perché? Cioè, il Movimento 5 Stelle è l'unico in Parlamento che vuole il voto palese, è l'unico che vuole votare a breve, entro il 5 novembre, e quello si permette di dire che siamo noi, cioè che il 5 Stelle vuole bloccare, vuole salvare Berlusconi, ma stiamo rosentando la follia. Secondo lui vuole salvare Berlusconi? Ma noi vogliamo andare tutti a casa, che questi ci hanno rotto le scatole, per non dire un'altra cosa, non li sopportiamo più. Io non ero del 5 Stelle, votavo PDL fino a 3 anni fa e ho fatto la più grossa cazzata della mia vita a votare. Un attimo solo, basta. Maurizio, abbiamo la borsa, torniamo, resti lì. Non siete seri per niente. La Zanzara. Non me moleste moschino. Non me moleste. Adesso, caro Parenzo, la gente non frega assolutamente nulla, non gliene frega assolutamente un cazzo. Ma il paragone che fa D'Alema con Birnalisi, cioè Renzi mi ricorda Birnalisi, cosa ha detto esattamente D'Alema, no? Perché uno deve anche spiegare, esatto. È un altro dei casi in cui la politica si esprime in un modo talmente tortuoso che lo capiscono in due. Non mi pare che al successo mediatico di Renzi, dice D'Alema, corrisponda una straordinaria ricchezza e novità di contenuti, questo dice. Mi ricorda un po' quella pubblicità di Birnalisi, sì. Con quella bocca può dire ciò che vuole, sì. Salvo dimenticare che in gran parte le cose che ha detto a Firenze sono già patrimonio del Partito Democratico. Ma sentiamo questa pubblicità. Perché la gente normale non ha capito una sega di queste cose, non ha capito una sega. Tricio al Fluoro presenta Birnalisi, la bocca della verità. La bruttezza è un malanno che forma l'infelicità di una donna, ma la gioia di tutte le altre. Ma signora Lisi, cosa dice? Ho detto qualcosa che non va. Con quella bocca può dire ciò che vuole, sempre Clorodont. Sì. Clorodont, oggi più che mai. Perché è Clorodont, il primo dentifricio al fluoro garantito con un certificato di università. Ogni volta che usate Clorodont, voi date ai vostri denti la dose ottima di fluoro, che vi assicura denti bellissimi. con quella bocca può dire ciò che vuole. Ma tu hai capito? Io non ho capito, sì, nulla. Certo, ma dimmi, subito. Dimmi, spiega, perché spiega la gente, spiega al borgo. È una pubblicità storica fatta durante vabbè, allora, ma che vuol dire applicata che a Renzi? Applicata a Renzi, che vuol dire? Spiega. È una battuta per dire che Virnalisi può dire qualunque cosa, quindi vendere quel dentifricio, far rendere credibile qualunque cosa, anche la più ciofeca è il sottotesto, no, di quella roba, sì, là. Sì. Puoi vendere, puoi dire hai una credibilità tale, in quel caso una bellezza tale, nel caso di Virnalisi. E invece nel caso di Renzi? Nel caso di Renzi sei talmente fuffa, ma come dire effetti speciali, che ormai hai il vento in poppa che puoi dire qualunque roba. La gente se la beve. Bene. Questo è il senso della battuta. Bene, l'hai spiegata. Ma l'hai lo capiscono spiegata. Anche i sassi. No, io non l'avevo capito. Io sarò rincoglionito, ma non l'avevo capito. No, cosa vuoi? Ecco, in questo caso io non avevo capito un cazzo. Esatto, che devo fare? Questo è il senso. Poi una citazione, perché la pubblicità andava venendo durante Carosello, ma qui entriamo in un altro ambito. Ma ci siamo persi il mitico duello tra Sabrina Nobile, la figlia, stai zitto, la figlia di Banna Marchi, Sabrina Nobile, e Bruno Vespa l'altro giorno dalla D'Urso. Beh, una cosa spettacolare. Sì. Perché la Nobile dice: Vespa ha riso della mia malattia. Dice che io non ero malata, non so che cosa abbia, l'artrosi, eccetera, eccetera. La Nobile. E poi a un certo punto entra in trasmissione Vespa. Entra in trasmissione Vespa. Pronto, Bruno? Buongiorno. Sì, buongiorno, Barbara. Buongiorno, Bruno, benvenuto. Benvenuto. Grazie. Scusate l'intrusione, ma mi hanno detto che la signora Marchi ha detto. Io mi chiamo che... Nobile, non Marchi, eh? Ah, scusi, abbia pazienza. Prima cosa. La signora Nobile ha detto che io l'avrei deriso, avrei deriso la sua malattia, avrei fatto non so ha che cosa. Ha messo in dubbio la mia malattia. Ecco, allora signora, guardi, forse lei, capisco, le sono capitate tante traversie. No, no, no, io la registrazione, non, mi non senta, faccia signora, il fenomeno noi perché prima c'è. Di parliamolo per volta? Il fenomeno fino a prova contraria l'ha fatto lei alle spese di tanta povera gente. Sì. Va bene? E adesso lo sta facendo lei. No. Benissimo, chiariamo i ruoli per piacere. No. Ognuno faccia il fenomeno a casa sua. E qui il round è andato a Vespa. Poi beh, però, 1-0 per Vespa. Però Bruneo, poi eh? la signora Nobile prende in mano la situazione, senti. Perché non è malato l'avvocato Cattaglia. Brava a tenere a bada questa signora, eh? Sei veramente brava, visto che lei... Ma la stessa parlantina che ha fregato tanta gente, guarda, le persone sono... E lei ha la stessa parlantina, guardi, veramente, brava! Non c'è bravi, per favore! Allora, vorrei... Ascolti, signor Vespa, facciamo parlare Bruno, però. Sì. Ascolta, facciamo anche parlare lui Bruno, voleva però. Che andassi da lui, non ci sono andata. Quindi inutile, se sono qua da te, perché deve parlare lui? Tu, quando lui è in onda, parli tu? Beh, da un certo punto di vista non ha torto, la signora Nobile, che poi dice, è vero o no che lei ha detto, Vespa, che io non ero malata e che facevo finta di essere malata? Quindi noi non abbiamo preso in giro nessuno, non prendiamo carcere, in giro gli ammalati, noi abbiamo soltanto trattato con Vespa, severità, Vespa, e adesso continuo anch'io, abbiamo trattato con severità le signore Marchi perché abbiamo portato in studio le loro vittime, va bene? Ecco, questo qui, bene. Quando la signora Marchi si è ammalata, siccome noi con le persone in difficoltà non ci accaniamo, abbiamo intervistato il suo compagno che attraverso le telecamere di porta a porta ha chiesto aiuto e spero anche che l'abbia ottenuto. Davide da Torino, 800 24 0024. Davide, ha vinto Vespa. Sì, sì, buonasera Cruciani. Volevo intervenire in merito al direttore di Radio Padania che avete fatto sentire prima. Io sono assolutamente d'accordo con lei e con Parenzo in merito alla difesa, diciamo così, dei diritti umani e soprattutto per quanto riguarda la figura della Chienghe. Ma che non venga a dire a Parenzo dico, quando parla di difendere i Rom, perché le dico semplicemente al signor Parenzo di provare ad andare una volta a vedere cosa succede all'interno di un campo Rom. Cosa succede? E tante soprattutto volte di provare ad abitare vicino a un campo Rom per vedere il degrado, l'immondizia, ho abitato a lungo la quando stavo a Milano, che questa gente dai, su, crea. Quindi su. Non si può difendere una categoria solo per ditelo il buonismo. Ma quale categoria? Ditelo alle amministrazioni così, comunali. Sono i comuni che attrezzano i campi nomadi. Vabbè, poi andiamo avanti, Davide, su. Dai. è proprio per questo, signor Parenzo, lei provi a vivere la vita. Ci ho vissuto, non a dai, da basta sopra. Con le provi ad andare a vedere cosa succede basta. Lì dentro, perché sennò rischia di dire cose completamente ma inutili. Ci ho vissuto vicino, non rompiamo le balle, su, con questa demagogia, campi, nome, professore del male assoluto. Ma non è demagogia, David, non è demagogia. Ma dai, non vedere dentro cosa succede. Perché come fossero l'emergenza, l'emergenza, campi, perché rom. Perché non prova ad andare lì in mezzo a vedere cosa ma succede? Dai, e poi emergenza, a vedere davvero quello che è la realtà. Ma su, Luciana ma da Genova, Luciana. Come fosse un'emergenza. Luciana. Dottor Cruciani, buonasera. Dica. Allora, io sono sciampista. Sì. Per cui il signor D'Agostino non si deve permettere, perché lo faccio io uno sciampo doppio. Sono sciampista e tatuata. Lei non deve criticare la gente perché è tatuata, perché è razzismo. Perché lei ma io non ho criticato nessuno, ma figuriamoci se ho criticato D'Agostino perché è tatuato. La calzetta di economista di Brunetta, che non ha pubblicato una mazza, forse anche altri due metri, ok? È una mezza calzetta. Ma chi? Appunto. Ma chi? No. Brunetta ma che c'entra Brunetta adesso? Sì, che c'entra no, Brunetta? Razzismo, perché lei ha detto D'Agostino, tatuato. Cioè, ma non ho detto che è un personaggio eccezionale. Tutto... Concia, come cavolo vuole? Ma guardi che. Ha capito? Vabbè, senta, Luciana, se lei ha bevuto stasera. Se lei ha bevuto. No, non ho bevuto. Se lei è un po'. Se lei è un po' su di giri, io non c'entro nulla. Io certamente. Me lo dice lei che sono sedi giri. Sì, io lo dico io. Con tutto quello che dice lei, ma come ti permette? No, no, ma glielo dico. Prendi la bassa, ma molto bassa, capito? Come? Ecco, e poi un'altra cosa. Come? Non ho capito, Luciana. La prendo bassa, te che ti. Ma io non la prendo bassa, la prendo come voglio. Io non ho criticato D'Agostino per. Allora prendo anche io come mi pare. Vabbè, la prenda come gli pare. Non glielo permetto. Ma invece io lo faccio e le dico che non ho criticato D'Agostino per i tatuaggi. Punto. Dunque lei ha capito male. E se continua a insistere su questa cosa, le dico che lei forse ha bevuto qualche cicchetto stasera. Ma guardi, io sono astemia, dottore. Ma questo lo dice lei che è astemia. Ma che cosa era reato, scusi. Ma non è importante, non è importante. No, no, no. Comunque, non ho nemmeno la terza media. D'Agostino era da criticare perché si è permesso di dare della sciampista. Come in toni di disprezzo. Sì, era, no, su questo ha ragione. Vabbè, ma lui diceva sciampista. Su questo ha ragione. Una persona che io condivido non si capisce cosa abbia fatto poi, se non essere la figlia. Ma perché non, dire? Ma non voleva, no, ha ragione Luciano. Ma non voleva parlare male delle sciampiste. No, ma su questo ha ragione. Che dice, scusi, io faccio gli shampoo e perché devo essere trattata così? Ma non voleva. Ma è come quelli che dicono sei un bidello, dispregiativo. Perché? Tutti i lavori sono nobili. Ma scusa. Mitomane comunque. Vabbè, Luciana, grazie. Dice, arrivederci. Prego, dottore. Arrivederci, arrivederci. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, cantare. Siamo ancora qui, siamo ancora qui. Oh, eccoci qui con Mattia Mor. Buonasera. Buonasera. Buonasera, come stai? Come stai? Io bene, bene, grazie. Voi? Bene, non c'è male, ce la caviamo. Allora, caro Mor, lei secondo lei Berlusconi chi è? Un criminale, uno che ha fatto i soldi con la mafia, uno che ha fatto i soldi in modo oscuro, uno di cui vergognarsi? Mi faccia una sintesi, poi riprendiamo il discorso di ieri sera, cioè, mi faccia una sintesi del suo pensiero su Berlusconi. Lei è un imprenditore, fa le magliette per un sacco di gente, anche importante, ha un'azienda di magliette, è un imprenditore, insomma, no, un imprenditore. Sì, l'ho detto ieri, ne facciamo qualcos'altro, non solo magliette, però diciamo quello è quello da cui siamo partiti. Beh, magliette, abbigliamento, quello che è. No, il mio giudizio su Berlusconi non è un giudizio tanto sulla persona quanto sul politico, quello che ho detto. Io ho detto ieri sera che mi vergogno da imprenditore che va all'estero per vendere e per lavorare, nel senso per quando si vede quello che è la valutazione del Berlusconi politico. Se io valuto assolutamente in maniera negativa ciò che ha fatto Berlusconi come no, ma lei anche come imprenditore l'ha criticato dicendo che ha fatto i soldi in modo oscuro. Guardi, e come no? Aspetti, io ho criticato Berlusconi alla domanda dell'onorevole Santanchè sul fatto che fosse un grande imprenditore. Io ho detto che non è per me non è un grande imprenditore, ma che i grandi imprenditori sono altri, perché per me un grande imprenditore è chi innova, e questo Berlusconi lo ha fatto con la televisione italiana, ma soprattutto compete in un sistema molto concorrenziale, cosa ma che come fa a dire che non è un grande imprenditore? Berlusconi è stato un grande imprenditore, almeno quello. Per me i grandi imprenditori in Italia sono Michele Ferrero, sono Renzo Rosso, c'è gente che compete in tutto il mondo e vede tutto il mondo, Leonardo Del Vecchio che ha la ma però lo dico, l'ho capito a lei, per lei chi sono i grandi imprenditori, lo dica chiaramente, secondo me Berlusconi è un corruttore. No, non dico questo. Ma come non dice questo? Io non dico questo, io dico questo che sta dicendo lei, io dico soltanto che Berlusconi non è il mio modello di imprenditore e come politico ha totalmente fallito in tutto quello che ha fatto. Come li ha fatti i soldi secondo lei Berlusconi? In modo oscuro? questo non lo posso sapere. Ma no, lei lo ha scritto, però lo ha detto. No, io ho detto che non sappiamo quella che fosse la provenienza, ma non ho, io non ho. Beh, quando uno dice non sappiamo quella provenienza, dice che ci sono dei dubbi sulla provenienza del denaro di Berlusconi. Questo lo sta dicendo lei, questo sta dicendo lei. Scusi, io. No, ma se lei dice, però. Ritrovo qui le cose. Lei si vergogna quando va all'estero, innanzitutto? Sì, io mi vergogno quando vado all'estero. Mi vergogno quando vado all'estero e sento parlare della politica italiana e purtroppo ci veniamo sempre associati a Silvio Berlusconi. Non può esserlo chi comincia così, si dice, con fondi di dubbia provenienza. Questo lei si dice, non lo dico io. Vabbè, capito, lei se lo scrive Scusi, signor Morre, però non è che uno può dire così si dice. Non può esserlo grande imprenditore chi comincia così si dice con fondi di dubbia provenienza. Dunque lei sostanzialmente accusa Berlusconi di aver fatto la sua fortuna con soldi di dubbia provenienza, sì o no? Non lo sto dicendo io questo. E allora non lo scriva, però, se deve riportare dei si dice. Cioè, quando uno... Io riporto un si dice, non ho i dati per valutarlo, riporto un si dice, perché quindi come tale dico che si dice. Si riferisce alla vicenda della banca Rasini, il vabbè, signore. Insomma, tutta la storia vecchia, no, non c'è bisogno... Non c'è bisogno di ripeterla, però c'è una cosa, caro signor Mor, che lei, questo che dice Mor, oggi... Renziano si può dire, comunque fa il tifo per Renzi. Ma Mor è il nome vero, il cognome Mor? È il mio cognome vero, sì. M-O-R? M-O-R. Da dove viene? Avevano nomato Peycon, Mor. Io sono di origine genovese, ma il cognome non so quale sia l'origine. Non sa. Mor, se tua vita mea. È italiano, sì, per carità. Allora, Mattia Mor. Allora, signor Mor, però, lei, è inutile che io ritorno, non è che uno che ha lavorato e ha avuto notorietà con Berlusconi non possa criticarlo, per carità, non dico di no. Però lei è stato, ha fatto Grande Fratello, fatto vari programmi Uomini e Donne, poi anche con la, come si chiama, con la Marcuzzi, un prodotto per Italia 1 che si chiama così. È un uomo di Mediaset, praticamente. Cioè lei sostanzialmente è cresciuto e si è fatto notare dentro Mediaset, giusto? Beh, sì, però io, la mia attività è nata 5 anni prima che io facessi Grande Fratello, quindi ho creato... Vabbè, ma lei è diventato famoso grazie a quella roba lì, su. A parte che non sono diventato famoso, perché la fama è altra cosa, non è fare Grande Vabbè, Fratello. Ma famoso per Grande Fratello, in qualche modo. Mi è stato proposto di partecipare a questi programmi televisivi e ci vi ho partecipato come... Non avendo pochi capitali, non avendo capitali dietro di famiglia per potermi aiutare, ho deciso di utilizzare queste trasmissioni nazionali popolari come forma di comunicazione della mia azienda. D'accordo, ma le stesse cose che pensa di Berlusconi le pensava pure prima, immagino, no? O no? Assolutamente, cosa vuol dire? Cioè, io penso delle cose del Berlusconi politico. Se lei pensa che sia un imprenditore pessimo, se lei pensa che sia un pessimo imprenditore, cioè comunque non si pensa che addirittura è possibile che abbia fatto i soldi in modo oscuro e lei comunque quei soldi ha preso dei soldi da Mediaset all'epoca, no? Cioè, quando ha fatto il Grande Fratello. No, se lei conosce i programmi di cui stiamo parlando, io da Uomini e Donne non ho preso un soldo perché non c'è nessun tipo di remunerazione, e da Il Grande Fratello ho preso la bellezza di 1.000 euro, perché sono stato dentro poco, dentro quella casa, e fuori diciamo 5.000 euro per l'indotto, quindi niente, nessuna. Ma ci tornerebbe nelle TV del presidente Berlusconi o no? Ci tornerebbe o no adesso? Parteciperebbe ai programmi delle TV di Berlusconi? Non ci parteciperei ora nel 2013, ma quando non rinnego di averci partecipato, quando ci ho partecipato in quel determinato momento, nel senso serviva alla mia attività, l'ho vista come sì, una però forma di se Berlusconi è una specie di Satana, come lo descrive lei, c'è cioè un personaggio pessimo, Satana, lei la, poi Satana partecipa... Non l'ho scritto io, io non ho parlato di Satana, il mio giudizio politico su Berlusconi, quindi non ho detto che Berlusconi sia Satana, perché non è questo il mio pensiero, assolutamente. No, ma ho detto che non è questo non il suo pensiero, me però, un grandissimo, non è un grande imprenditore, ho detto che i grandi imprenditori per me sono altri, gli imprenditori che sono dei modelli sono altri, perché già il fatto di poter competere a livello globale è una cosa che Berlusconi con le sue aziende non ha fatto, perché comunque lui si è sempre... Vabbè, insomma, lei ha un'idea pessima di Berlusconi, lei ha un'idea pessima come politico, ma anche come imprenditore. No, come imprenditore non pessima, assolutamente, però la domanda è il più grande imprenditore, ho detto assolutamente non è per me però il grande lei imprenditore, si è fatto notare al grande pubblico attraverso le televisioni di questo signore, sì, ha capito? E, insomma, sì, la cosa un po'... ma il grande pubblico, cioè l'essermi fatto notare non è che abbia cambiato né la corso della mia azienda. Cioè, lei ha scritto anche che compra le sentenze, cosa peraltro stabilite dalle corti. Cioè, lei oggi critica moltissimo Berlusconi, lo stesso Berlusconi che le ha dato la fama, le stesse aziende di Berlusconi che le hanno dato la fama. Io perché gli dava tutto bene, però. La dignità e l'intelligenza di di sapere che quello che ho fatto con la mia azienda l'ho fatto grazie alle persone che hanno lavorato con me, grazie al lavoro che abbiamo fatto, e che quello che ho fatto nelle televisioni di Silvio Berlusconi è stato soltanto un passaggio comunicativo, ma non è stato quello. Però le ha dato qualche vantaggio questo passaggio comunicativo, cioè non è mi ha dato qualche vantaggio, assolutamente. Io non nego il fatto che mi abbia dato qualche vantaggio, ma assolutamente non è non penso che sia una cosa sbagliata poterlo criticare. E qua scusate, viene fuori il concetto annoso del conflitto di interessi, è esattamente questo. Io critico Berlusconi come uomo politico e non lo posso criticare perché allo stesso momento possiede le televisioni? Questo è, no, ma non è che non lo può criticare, la palissiano, ma non è presentare quello che è il problema. Scusi Morra, lei non è che non lo può criticare, lei lo può criticare, però quando uno pensa certe cose di Berlusconi, cioè lei pensa, insomma, compra le sentenze, non è stato un grande imprenditore, come politico è pessimo, uno magari c'è, no, qualche problema di andare a lavorare in quelle televisioni, ce lo potrebbe avere o no? Ma uno potrebbe avere, intanto nel momento in cui uno deve lavorare, decide di lavorare, può tranquillamente farlo anche all'interno di aziende che hanno un orientamento politico diverso dalle proprie idee. Io non vedo nessun tipo. Lei comunque è diventato renziano e di sinistra dopo, secondo me non lo era prima. Assolutamente no, non sa, io ho votato il centro-sinistra, prima la Margherita per il Partito Democratico, dal 2000 in poi. Non ha mai votato a destra lei? No, non ho mai votato a destra. Mai votato a destra? Vabbè. No, assolutamente. Vabbè, per carità. La Santanchè dice che lei si deve sciacquare la bocca prima di parlare di Berlusconi. Ecco, io mi sciacquo la bocca prima di parlare di altri personaggi, poi mi sciacquo la bocca prima di parlare di Maria Teresa di Calcutta, di Gino Strada, di Peppino Impastato, non di Silvio Berlusconi, sinceramente. Era l'ultima cosa che poteva dire da questo la Santanchè. Ma che effetto fa confrontarsi con la Santanchè? Ma guardi, nel senso... È faccia a faccia, che effetto fa? È l'effetto che fa nel confrontarsi con chiunque ripeta della macchinetta delle cose inculcate dal capo senza nessun tipo di veridicità. Perché cioè lei dice che è un automa in mano a Berlusconi? Io dico che sono il fatto che... Beh, una macchinetta con le cose inculcate dal capo, questo sì, ha detto. Sono cose ripetute, nel senso dire che Berlusconi ha fatto bene a questo paese è un dato. A lei ci crede? Lei sicuramente ci crede, ma non, io personalmente... Ma lei dice che è una macchinetta. Ci sono dei dati che parlano, nel senso io so che Silvio Berlusconi, lo sapete anche voi, ha governato dal 2001 al 2011 per 8 anni su 10, il periodo più lungo dopo Mussolini della storia italiana repubblicana, e so che in questi 10 anni l'Italia ha avuto la terza crescita di PIL, dell'ultima crescita di PIL al mondo. Però Morra, mi scusi, questo l'ho capito, però caro Morra, non è cioè lei deve accettare pure queste critiche. Oggi Dagospia giustamente ha scritto: moralisti per caso, Mattia Morra, l'imprenditore renziano che si vergogna di Berlusconi, accampato su Mediaset, è un ex Grande Fratello e corteggiatore di uomini e donne. C'è poco da fare. Il mio non è moralismo, il mio è un giudizio politico. Io non ho fatto del moralismo, non ho parlato delle cene eleganti di Berlusconi. Lei ha detto che i soldi sono di dubbia provenienza. Il mio non è moralismo, il mio è riportare in questo senso quello che sostanzialmente o sono i fatti, almeno per quanto riguarda la frode fiscale, il sentenza, oppure sono delle cose che lei si dice che però a me non riguarda. Comunque combatte sto Morra, caro Parenzo, combatte sto Morra, combatte come un leone. Grazie Mattia Morra, grazie, buona grazie serata. Mille, arrivederci. La zanzara è quell'odioso insetto che non andiamo a Milano. Cristiano, buonasera Cristiano. Giuseppe? Sì. Pronto, Peppone Cruciani, buonasera. Dica. Volevo salutare anche Don Camillo Parenzo. Beh, veramente buonasera. Io Peppone, Don Camillo non mi pare. Semmai Don il contrario. Al massimo, ma proprio nemmeno ma il contrario neanche, in realtà. Vabbè, allora che vuole dire? Volevo dire a professore Parenzo che, visto che stanno promulgando nuove leggi tutto, tutti i giornalisti che guadagnano sopra i 100.000 euro dovranno farsi carico per un anno o due di un ROM, se lo prendono in casa in affido. Da quanto tempo ha meditato per questa cosa qui? Lei è venuta in mente in quanto tempo? Ma nel giro di 2 minuti ho fatto chiamato, ecco, sì, nel giro dell'ultimo quarto d'ora. Sì, non è che ci ha riflettuto molto su questa provocazione. No, però ho detto, siccome tutti li difendi sempre tutto, ho detto, visto chi guadagna di più... Se li prende in casa. Se lo può permettere. Certo, se li prende in casa. E pensi, Cristiano, adesso che torni a casa, di non vergognarti di questa cosa che hai detto? Pensi che i tuoi vicini, quando ti hanno sedito a Radio 24 alla Zanzara, non ti guardano con quello sguardo di chi dice mamma mia, Porello lui? Porello lui, ti guardano con quell'occhio, sai, quell'occhio quasi imbarazzato, no? Certo, quasi con una certo. lacrima che dice: Cristiano, vieni qui che ti abbraccio per la stronzata. No, ma io vorrei guadagnare quello che guadagni tu, perché siccome io già ti ripeto, aiuto. Sì, ripeto, ma ora che sei già a casa, domattina. No, non sono quando ancora la gente casa. Dirà: oh, quello è Cristiano che ha parlato alla Zanzara, abbracciamolo per la stupidaggine che ha detto. Il discorso è proprio quello. Invece, esatto. Siccome bisogna aiutarli materialmente in maniera diversa, non è che fai tanto l'ipocrita, perché quando uno ha i soldi. È tutto facile. Avanti, fatti abbracciare, su, domani. Grazie, che imbarazzo, Cristiano. Per i tuoi vicini di casa. Io non che sono per niente imbarazzato, guarda, perché vivo anche in una zona di Milano e ho lavorato anche con delle onlus, quindi c'ero contatto tutti i giorni. Sei un ipocrita. Cioè, dovrebbe perché prendersi i nomi in casa? Lavoro, dovrebbe prendersi i nomi in casa? Allora poi ti puoi aiutare, se no da fuori è tutto bello. Tanto siamo noi i soliti europei, Cristiano, che guadagniamo i 5.000 euro al mese. Cristiano, dovrebbe prenderci un rom in casa, Parenzo? Certo, visto che lui soldi ce li ha, non ha problemi. Io ho problemi, ma cosa c'entra? Ma quando uno dice... State zitti tutti, interviene Maurizio Gaspari su Twitter. Scrive un tweet: apprendo da un ferroviere che oggi sul treno Milano-Roma delle 15 una signora ha urlato al senatore Monti: dov'è il cane? Lo dia a me. È vero, dice Gasparri. Giornale radio. Anzi no, pubblicità. No. Quando io sento l'inizio della trasmissione, dopo pochi minuti spengo la radio. Avete toccato il fondo. La Zanzara. La Zanzara che punge nel vivo. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Come vampiro. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? David? Si può fare l'amore. Sì, sì, è qui. Senza impurità. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Sì, ma l'abbiamo capito. Capito, però tu e il tuo cane, anche tu nei ristoranti. Il tutto per i cani nei ristoranti. Nervoso, il fastidio, la bestemmia. Mucchini. Uccidi la zanzara. David? Sì, Mucchini. David? Sì, dimmi, sono qui. Uccidi la zanzara. Dai, lo dico io. Ma chi è Parenzo questo? E quando mai? Parenzo, quando mai Parenzo non dice stupidaggine? È tornata a parlare la Bonef. Questa carrellata di cose che Michelle Bonef, quella che è andata alla Santoro e dice che la Pascale è lesbica, che viene ricattata da Berlusconi, eccetera, eccetera. Dice che aveva avvertito prima di andare al servizio pubblico che Silvio Berlusconi e aveva detto alla Pascale e Berlusconi: dite la verità, tirate fuori la verità. Per me questa Bonef ha la credibilità pari a zero. E anche tu, Parenzo, che sei anti-berlusconiano, dovresti ammetterlo. Questa Bonef fa credibilità pari a zero. È vero che è stata, ha fatto parte della corte di Berlusconi e ha ottenuto tutti i vantaggi possibili. No, ma trovo assurda la tesi di per sé, no? Cioè, chi se ne frega? Mi pare una roba totalmente assurda. Vabbè, comunque, cosa dimostra? Intanto ricordiamo che ha detto che la Pascale è lesbica. Intanto ricordiamo. Abbiamo detto, diciamo. Vivono in un mondo che non è vero e lei continua, loro vanno sui giornali dicendo che sono una coppia. Francesca Pascale è lesbica. Io sono stata con lei, ma non una volta. Avevamo un rapporto. E sai cos'è? Lo sanno in tanti. Dai, ma non si può credere a una cosa di questo tipo. Dai, non si può credere. 10 milioni di euro di danni ha chiesto signora Pascale. Sì, ma a parte il fatto che chi se ne frega, lei lo inquadra tutto all'interno di una di una storia sulla scarsa credibilità di questo rapporto, Berlusconi che viene ricattato, eccetera, eccetera. Dunque la storia potrebbe anche avere una sua importanza. Oggi viene intervistata di nuovo dal Corriere della Sera la signora Bonef e rivela: cercai di parlare a Silvio e Francesca. Vabbè. Il fastidio. Paolo dalla provincia di Monza. Avete iniziato la trasmissione intervistando un senatore del PD che ha visto con i suoi occhi una compravendita praticamente di tessere. Sì, sì. Allora mi faccio la domanda, ma il Parenzo che è lì a fianco, cosa avrebbe detto se fosse stato del PDL? Quale show avrebbe messo in piedi? Guardi che a Parenzo allora mica dico, piacciono le compravendite di tessere del Partito Democratico. Lei sta scherzando? Ma è stato blandissimo, non ha detto niente, sono stato uno del PDL, un cittadino. Ma quello era uno che denunciava, scusa. Avrebbe fatto chissà che ma scenata. Ma lo usa il cotton fioc la mattina o no? Comprano. Ma scusi, ma lo usa il cotofio? Allora, ma lei capisce? Cioè, ascolta, fallo parlare, fallo parlare un attimo. Mi scusi, parliamo una volta per cortesia. Dato che lei ha la testa come giornalista, ma tiri fuori i coglioni e dica quando è merda, non solo quelli della destra, ma quando sono i suoi amici comunisti. Tiri fuori i coglioni, sei veramente un giornalista, cazzo. Paolo? E non sia Paolo? Sempre così fazioso. Che ma cosa Paolo? Da vomitare la sua Paolo fazzosità? Da Monza? Paolo da Monza, sì, scusa. Volentieri. Paolo da Monza, scusa, ti spiacerebbe andare a fare in culo? Il signore che abbiamo intervistato insieme. Prima, il senatore Esposito, insieme, è uno che ha denunciato la compravendita delle tessere, non era il protagonista o il supposto protagonista, lei era uno che l'ha denunciato. Avrei dovuto attaccarlo perché il signore Esposito si ha denunciato. No, lui dice che non ti sei indignato, lui ma dice certo che mi sono indignato. Ma, dico... ma cosa sei indignato? Paolo? Ma cosa indignato lei? Paolo lei da Monza? Lei è uno dei suoi amici comunisti. Non ha Paolo da Monza? Può chiamarsi scusa, c'è la regia a Milano. Paolo, senti qua, Paolo. Ascolto volentieri sempre, bisogna ecco, fare in culo senti due. Qua, Paolo da Monza. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Eccolo qua. Se vuole andiamo insieme, Paolo, non c'è problema. Paolo da Monza. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ma che bravo, ma come bravo interloquire lei comunista del cazzo, ma come bravo interloquire sempre sfottendo i vostri telespettatori. Ho detto che mi sono indignato della cosa delle tessere, ma di che parliamo? Va bene Paolo, ho capito, abbiamo capito. Claudio sempre da Milano, anzi quello dalla provincia di Monza. Claudio, Milano, poi Firenze, provincia di Rimini, Cosenza, tutta Italia. Claudio, dica Claudio. Buonasera. Ma che rottura di coglioni, ma tutte le sere Berlusconi, cioè ragazzi, guardiamo un attimo in faccia la realtà, stiamo parlando sempre regolarmente tutti quanti di Berlusconi, della Pascale, ci andiamo a fare in culo del cane di Monti, ma il cane di Monti mandatelo al parchetto di via Campazzina a Milano con la mia cagnolettiera, ma l'Italia ha dei problemi che sono drammatici, 64.000 aziende che chiudono. Parliamo di dare il lavoro ai giovani, ci dimentichiamo che i quarantenni e i cinquantenni e hanno delle famiglie da mantenere, sono in mezzo ad una strada. Abbiamo dei problemi che sono veramente drammatici. Io sono vabbè, allora? Sì, Cruciani, allora, cazzo, sprechiamo il nostro tempo, investiamolo per parlare e affrontare i problemi di questa Italia. L'altra sera c'era Yonghi Lavarini che conosco, l'avete messo a tacere perché soprattutto Parenzo Lavarini, perché non ho capito perché questo Yonghi Lavarini invece parlava dei problemi dell'Italia? Parlava dei problemi dell'Italia? Signor Yonghi Lavarini, detto con tutto rispetto, il signor Yonghi Lavarini parlava dei problemi dell'Italia? Ma certo, ho ascoltato anch'io, ti ho ascoltato. Vabbè, dai su Claudio, ma smettiamola, dai su. Cioè era cabaret, va bene, il cabaret va benissimo, ma era cabaret. Cioè. È quello che facciamo tutte le sere. E vabbè, ma noi facciamo il cabaret, le piace a lei? Le piace il cabaret sull'attualità? Le piace o no il cabaret sull'attualità, sulla politica? Sì, e allora se le piace non rompe i coglioni, su. Ma se le piace non rompe i coglioni, dovremmo parlare di questo, dovremmo parlare di quest'altro, ma non stia lì ad ascoltare e non rompa le balle. Cioè stiamo facendo cabaret sull'attualità e sulla politica, cosa che facciamo ogni sera, ci divertiamo come matti, importante divertirsi, ridere un po', cioè questa è la cosa importante, non parlare dei problemi dell'Italia, non ce ne frega nulla. Beh, no, dei problemi dell'Italia, a noi non ce ne frega niente dei problemi dell'Italia, a me personalmente cose. Dei problemi dell'Italia non me ne frega un cazzo quando sono alla radio, poi faccio le mie considerazioni, le mie cose, a me sinceramente mi indigno per qualche cosa, per esempio mi indigno per il fatto che c'è un consigliere regionale del Partito Democratico che si chiama Casadei, che sarà sicuramente una persona molto molto onesta, Rodolfo Casadei, il quale si chiama Thomas Casadei, il quale dice di non sapere perché nei suoi rimborsi spese sono finiti due scontrini da 50 centesimi ciascuno per il totale di un euro con i quali ha pagato il bagno pubblico alla stazione di Parma. Cioè questo signore cosa ha fatto? È andato al bagno pubblico a Parma, a parte che andare al bagno pubblico alla stazione io non ci andrei mai, comunque lasciamo perdere. È andato al bagno pubblico, gli scappava da pisciare al signor Casadei, Partito Democratico, alla stazione di Parma. È entrato lì, ha dato 50 centesimi. Si è messo a pisciare, è tornato fuori, questo scontrino l'ha conservato e poi l'ha dato per il rimborso. Cioè, abbiamo pagato la pisciata di casa dei, cioè una cosa pazzesca. Abbiamo pagato noi contribuenti due pisciate del signor Casadei, del signor Thomas Casadei. Lasciamo perdere i 50 centesimi, il punto non è quello. Uno, come gli viene in mente di dare, la pipì fatta di dare come servizio, di dare come rimborso, di dare come rimborso le proprie pisciate? Il signor Thomas Casadei è andato due volte a pisciare la stazione di Parma, 50 centesimi a pisciata, dopodiché noi rimborsiamo le sue pisciate, noi paghiamo questo... una cosa pazzesca. Ormai è tutto eh sì, ho capito, degradato, tutto degradato. Beh, degradato, ho capito, cava, sì, è degradato, ma dai su, ma come si fa? Ma poi uno dice non me lo ricordo se l'ho dati, ma i foglietti o li dai o non li dai? Se dai due foglietti con scritto 0,50 per ogni pisciata, cioè bagno alla stazione di Parma, poi non è che puoi dire no, io non mi ricordo, cioè sono capitati per caso tra i rimborsi, per caso? È una cosa pazzesca, dai. Franco D'Asti. Esatto, che ormai è tutto finito. Lo so, è tutto finito. Franco D'Asti. Allora, ciao. Sento questa trasmissione da sempre. Ultimamente avete virato un pochettino su un, come dire, su un terreno un po' più fetish, non c'è proprio fetish, più trash, diciamo, ma vi va bene, è un format. Però Parenzo, va benissimo, è divertente, però Parenzo ultimamente non lo sopporto veramente più, sì, perché come dire, lui dovrebbe, sul discorso dei rom, vi dicendo, non capisco veramente, perché quando Parenzo... Oh, sta dalla parte dei rom, okay, che bisogna fare? No, gli piacciono i rom? Uno dovrebbe mettere, a me mi piacciono i rom, una società in cui ci siano tanti rom, in cui ci siano i campi rom che fanno il cazzo che vogliono, ti piace così? Le case popolari, ma quali case popolari? Quelli sono nomadi per definizione, tu hai le case popolari? Io non voglio, i campi nomadi devono essere soluzioni transitorie, loro devono essere molto grossi. Ma non li vogliono, sono nomadi, nomadi. Ma nomadi per nulla, perché stanno fermi lì e non mi pare che se ne vadano troppo in giro ormai. Questo è un mito. Alcuni sono, no, pochissimi sono. Vabbè, allora, nomadi. Fai concludere Franco. Io dico i rom fanno parte di sé. Ma io non sono contro i rom o contro nessuno. Io sono per le regole. Noi stiamo parlando di tante cose. Tutte le trasmissioni, c'è gente che ruba in tutta Italia e il problema sono i rom adesso. Ma non c'è deputati, problema. Indagati, corruzione, concussione, certo, ricatti, tutti, intercettazioni. Il problema sono i rom. No, non sono i rom, sono le regole. Perché io devo andare a dire all'ufficio delle entrate perché un anno non ho guadagnato e quindi non ho dichiarato nulla? Il suo problema non sono i rom, è l'evasione fiscale che fanno i banderi, i banditi in giacca e cravatta, non i rom. Perché? Ipocrisia assoluta. Abbiamo capito, Franco, ho capito benissimo. Gilberto da Cosenza. Lui dice ho capito. Gilberto. Sì, pronto, buonasera a tutti. Dica. Dunque, sì, io volevo dire al dottor Parenzo, lui che fa il paladino degli ultimi... dei poveri, eccetera, incominciasse a difendere un pochettino anche il popolo palestinese. In quanto adesso che c'entra, mo' è a mezzo e mezzo, questo qua pure il popolo palestinese, Gilberto, no, ma su. Difendiamo, ma io non nulla, nulla in merito ai palestini, che tutti quanti vanno tutelati, però le gravi ingiustizie che compie il popolo ebraico nei riguardi dei palestinesi, questo è lampante. Vabbè, adesso non ce ne possiamo occupare a quest'ora, caro Gilberto. No, vabbè, no, ho capito, però soltanto per dire, vorrei dire soltanto che Parenzo dovrebbe difendere pure i palestinesi. Vabbè, non li difendi i palestinesi così per principio, non li difende. Ma non difendiamo nessuno per principio qui. No, no, ho capito, un attimo, vi ricordo soltanto che per testa narne uno vanno con bombe e colpiscono i palazzi, e per non ti indigna su queste cose o quando Gilberto, questa è realtà, questa è storia, Gilberto mio. Vabbè, Gilberto, niente pubblicità, basta. David, la zanzara. Sei ancora a casa, Simo? Davide, dove sei finito? Non ho capito. Ho premuto un tasto che è quello verde alla radio. Vabbè, dai, al telefono. Vabbè. Non capisci un ecco, cazzo. Appunto, la cosa fondamentale, la cosa fondamentale è quella. Allora, abbiamo con noi un mito, una leggenda, Don Hermes Macchioni, parroco di Sassuolo, esorcista. Buonasera. No. Buonasera. Come sta Don Hermes? Grazie a Dio molto bene, spero anche di voi. Beh, noi ce la caviamo. Caro Don Hermes, io volevo capire perché lei ce l'ha tanto con Halloween. Lei dice addirittura che ci sarà tra pochi giorni, anche mia figlia, per esempio, lo festeggerà Halloween. Devo proibirle di festeggiare Halloween a mia figlia? Ma guarda, è un problema di coerenza, io non ce l'ho con Halloween. Come no? Ce l'ho con i cristiani battezzati che vivono Halloween. Perché Halloween è una festa pagana. Sì. Ma lei dice anche noi delle feste pagane. Ma lei dice anche che è una festa del demonio, che vuol dire? Beh, essendo pagana può essere anche sollecitata dal demonio. Cioè in che senso sollecitata dal demonio, scusi? Ma dunque è chiaro che è un combattimento in atto tra il bene e il male, no? Sì. Ecco, allora, Gesù Cristo è il bene. Il diavolo, creatura di Dio diventata cattiva, sì, è il male. Allora l'uno combatte contro l'altro. Sì. Ma ha già vinto Gesù Cristo. Scusi un attimo, in questo caso dove si nasconde il demonio in Halloween? Nelle zucche? In che cosa? Ma guarda, tutte le feste pagane, sì, sono in realtà orientate al, sì, al diavolo. Sì. Tutto lì. Anche nella festa di Halloween, a parte il fatto che ci sono diverse strutture di questa festa di Halloween, sì, però la festa di Halloween è all'origine creata, sì, per rendere onore al grande cornuto. Addirittura. Il grande cornuto è il diavolo. Addirittura, cioè all'origine. Poi è stata americaneggiata, poi, sì, è stata addolcita, poi è stata commercializzata, poi è stata ricoperta, però è così. Cioè, per rendere onore al grande cornuto. Scusi, lei dice che i bambini dovrebbero andare nelle parrocchie a vestirsi di bianco. È quello che farà lei a Sassuolo? Che farà lei? Ma certamente, nella mia parrocchia, il 31, sì, noi faremo la sesta festa dei santi. Festa dei santi, ma in cioè? Onore appunto di tutti i santi. Per scacciare il demonio, ma il grande cornuto? Beh, guarda, il demonio... Cioè, non è che noi la facciamo per scacciare il demonio, noi la facciamo per onorare, esaltare... Ho capito, ma perché questi bambini vanno vestiti di bianco? Cioè, vestiti da santo, non da bianco. Ma perché dovrebbero andare vestiti di nero? No, ma perché devono andare lì vestiti? Ma perché è una zucca, è la festa della zucca. No. Ma come non è la festa? Bianco, è la festa della zucca. Il bianco per i cristiani, sì? Stiamo sempre discutendo sulla festa cristiana, sulla, sì, festa pagana. Perché il 31 di ottobre, sì, è anche la festa della Wicca, delle streghe, è una festa particolare, non è solo la festa cosiddetta di Halloween. Ma secondo lei dovrebbe essere soppressa questa festa di Halloween? È meglio che i nostri bambini non vadano lì perché potrebbero essere influenzati dal grande cornuto, come dice lei? Dunque, ognuno può fare quello che vuole. Quello è chiaro. Ah, io non ho nulla contro Halloween. Torno a dire, no, io me la prendo come prete, come educatore, sì, contro i cristiani, mm, che dicono di essere di Gesù Cristo e poi adorano il cornuto. Adorano il cornuto, partecipando ad Halloween. Veramente io non credo che mia figlia, partecipando ad Halloween, adori il grande cornuto. Però se lo dice lei, caro Don Hermes, intanto andiamo al traffico. Poi lei ci racconta qualche episodio della sua vita meravigliosa da esorcista. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. La zanzara. Vado a stare svegli per amare. Che il Signore vi benedica tutti, vi spiri sempre il bene. Fatica a sopportare di notte le zanzare. Ma tu lo sai, Parenzo, che alla fine tutti questi esorcisti che noi chiamiamo, significa che un po' siamo appassionati della materia. E effettivamente io sono un grande appassionato della materia. Abbiamo con noi questa sera una specie di leggenda del mondo dell'esorcismo, che è Don Hermes Macchioni, 63 anni, sacerdote, 64 anzi, sacerdote della parrocchia di San Michele dei Mucchietti vicino a Sassuolo. Mitico Don Hermes, che adesso ci dirà quanti esorcismi ha fatto nella sua carriera, caro Don Hermes. Quanti ne ha fatti? Ma non li ho contati, ma sono diversi, contiamo circa 2 esorcismi al giorno. Addirittura. Da 20 anni. Mi dica l'ultimo, che cosa aveva? Qual è stata l'ultima tragica, drammatica esperienza? Perché è sempre un dramma l'esperienza del, no, del diavolo in corpo. Ma beh, sì, ma questo è davvero un dramma, realmente un dramma, sì. E anche terribile per la persona e per chi gli sta attorno. Diciamo che è un signore che apparteneva, sì, a una setta satanica. Addirittura? Sì. E lei cosa ha fatto per la guarigione? Ah, niente, ho fatto quel che fanno gli esorcisti, ho pregato. A pregare. Qual è la preghiera dell'esorcismo, quella tipica? Quella ma è un rito complesso, non è così semplice. Spiegarle in pochi minuti. È un rito con delle preghiere. È un rito. Ed è guarito delle... questo signore? Questo signore è guarito. È guarito, sì, è guarito. Vabbè, senta, Don Hermes, mi può raccontare però, adesso c'è qualcosa che non mi torna. È vero o no che ci sono dei tumori provocati dal diavolo e dei tumori invece che vengono proprio dalla malattia? Certo, ma non si possono dimostrare. Come si fa a dimostrarlo? Beh, scusi, però Don Hermes, non mi può dire che esistono delle persone ammalate di tumore, ma questi tumori si possono guarire con un esorcismo. Io non ci credo a questa roba qui, Don Hermes. Allora, se il tumore è una causa spirituale, ma non può avere una causa spirituale il tumore, Don Hermes, su. E perché dici di no? Ma no, ma è un... ci sono dei casi che posso dimostrare senza spiegare, nel senso che sono indimostrabili. Cioè uno, io non posso mica andare a dire, guardate che ci sono dei tumori causati da una problematica spirituale, perché mi danno del pazzo, però ci sono. Ci sono, Parenzo, tu ci credi? No, io dico, guarda, ma con grande rispetto all'amico Don Hermes, che saluto, l'unico diavolo in corpo che io conosco è il bellissimo film del signor Bellocchio, che è stato un maestro del cinema, l'unico diavolo in corpo che conosco. E poi non possiamo dire che Dolcetto, Scherzetto, questi bambini bellissimi vestiti con le zucche sulla testa costituiscano un problema. Questo io, ma lo dico con grande rispetto, cioè non possiamo dire che rendono onore al grande cornuto. No, io invito l'amico di cui non ho capito il nome, David è ebreo, è anche ebreo, ma che c'è? È anche ebreo, cioè... ma cosa ci va, perché devi, cosa che ci sono l'ebraismo ha i grandi casi di esorcisti e di esorcismo. Ah, esistono pure gli esorcisti ebrei? Vabbè, ma perché? Che c'è di male? Scusa, non ho capito. Ma non è un argomento, io questo del diavolo, non è un argomento che mi appa. Certo, la figura del Satan c'è anche nell'ebraismo, in tutte le religioni. Non è una cosa. Senta, ma quante persone la chiamano ogni giorno, Macchioni, per guarire? Diverse, tante, ogni giorno. Anche oggi avrei dovuto dare appuntamento almeno a 6 persone. Addirittura? Ma c'è così, così tanta gente malata di che ha il diavolo dentro, comunque, che non dice... lo sapevo neanche io, finché a un certo punto ho dovuto rendermene conto. Ogni giorno è una veramente bombardata di chiamate. Di chiamate, Senta, però io vorrei capire una cosa. Secondo ma lei... Ma cos'è il 118? No, vabbè, è uno che pensa di essere avere il diavolo dentro, di avere dei problemi con delle presenze occulte. Ho capito, ma è mai successo, ad esempio, che lui lo ha visto, sto diavolo? Cioè, è stato pericoloso anche per il Don qualche volta? Ha corso dei pericoli lei, Don Hermes, qualche volta? No, io sono stato sempre protetto e sono protetto. Da chi? Dalla Madonna. Dalla Madonna? Chiaro. No, perché molti esorcisti. Ogni esorcista, mica solo io. No, vabbè, questo io non lo sapevo. Molti esorcisti dicono qualche volta invece di aver corso dei piccoli pericoli, Beh, ho preso un pugno in un naso. Un pugno in un naso? Da una fanciulla di 12 anni. Sì. Ma veramente? Sì. Ma non è che questa si è girata, ha dato una botta al naso? No. Era lì con la mamma. Ed è il diavolo. Buona, brava, tranquilla. Boom, il diavolo ha giocato un brutto scherzo. Ha fatto un brutto scherzo, sì. Vabbè, comunque. Ma il Papa, per esempio, secondo lei ha fatto qualche riferimento al diavolo? Ha fatto qualche esorcismo o no? Il Papa ha fatto continui riferimento al diavolo. Il Papa ha detto di stare attenti perché il diavolo non è una malattia. No. Il diavolo è un essere personale. Ma lui ha fatto qualche esorcismo? Il Papa? Vabbè, questo non lo so. Ma che problemi ci sono? No. Il diavolo può fare il Papa può fare tutti gli esorcismi che vuole. Cioè, senza dover chiedere il permesso o dare, diciamo, no, così, ma quel caso famoso, si ricorda, con quel nessuno, quel ragazzino là toccò la testa, quello non era lo un so, io non ho visto il caso, non lo so. Beh, come non l'ha visto? L'ha visto. Comunque, vabbè, lei faccia un appello ai bambini che vanno a festeggiare Halloween, caro Don Hermes. No, ma come un faccia un appello ai bambini. Ma io dico, venite alla chiesa, tutti sì, belli, bravi, buoni, sì, venite ad invocare i santi, sì, perché i santi sono quelli nella difficoltà della vostra vita. Ma quelli vanno a giocare. Correggono. Ma quelli quel giorno vanno a giocare, caro Don Hermes. Vogliono divertirsi, vanno a giocare. Beh, ognuno è libero di fare quel che vuole. Ma lei dice che corrono un pericolo di essere posseduti. Che pericolo corrono sti bambini? Ma non è un pericolo di essere posseduti. Non è a questo livello il problema. Il problema è che a un certo punto si decide di fare cose che non servono per la propria vita. Tutto lì. Vabbè, comunque lei dice che c'è molta gente malata, molta gente malata che invece che va da psicologi, psichiatri, medici, e invece è semplicemente posseduta dal demonio, semplicemente, insomma, drammatica. No, io dico che ci sono, è quello che diceva il Papa, cioè il demonio non è una malattia per cui si manda tutti e subito dallo psicologo, dallo psichiatra. Ci sono delle problematiche di tipo spirituale, sì, che hanno una origine spirituale. Sì, però ci sono delle problematiche di tipo fisico che hanno un'origine fisica. Ma gli omosessuali, se uno vuole guarire da una problematica spirituale, sì, bisogna che vada dall'esorcista. Però scusi un attimo, gli omosessuali sono posseduti dal demonio secondo lei? Ah beh, questo non lo posso certamente dire. E come non lo può dire? No, non lo posso dire questo. Gli omosessuali sono anche loro persone che io accolgo tranquillamente. Però sono un po' posseduti dal demonio, no? Non lo so, no, questo non lo posso dire. Non si può dire, però può essere, diciamo. Non lo posso dire. Non si può dire. Ne lo voglio dire, ne lo dico. Ma sono malati secondo lei, no? Non lo posso, no, no, non credo. No, non no. Credo. Sono persone che hanno la loro problematica. Beh, problema. Ma noi, io sono aperto a tutti. Ho avuto, ma mi stupisce, diverse persone in questo senso. Però veda, non è ha avuto molti posseduti dal demonio omosessuali? No, no, no, no. Ho avuto molte persone, sì, di diverso tipo, diverso, diciamo così, presenta. Sì. Non di tipo omosessuale. Sì. Ma persone che hanno bisogno di interventi, di preghiere, eccetera. Capito, Parenzo? No, veda, ho capito. D'accordo. Don Hermes, veda, la cosa che più mi stupisce, perché sono un po'... No, a me mi stupisce la cosa del tumore. No, i tumori... beh, quella d'accordo, ma anche questa roba qui che chiamano due al giorno, due indemoni, mi stupisce adesso lui alla zanzara... No, più persone al giorno chiamano, due quelli due che... Due persone al giorno, lo chiamano perché sono... ma non è che chiamano loro perché sono indemoniate, non è che possono chiamare loro, immagino, no? Chi chiama? Chiamano loro o chiamano i parenti? Non è che chiamano quelli indemoniati? Chiameranno. Beh, certo, chiamano i parenti, chiamano anche loro, perché uno non è indemoniato 24 ore su 24. Vabbè, dovrebbe essere. Però si rendono conto di essere indemoniati. Di presenza di se stesso, indubbiamente. Va bene, grazie Don Hermes, a presto. Ogni bene, zanzara, guarda zanzara, ho una zanzara nella mia camera ancora, che ogni mattina quando apro gli occhi mi punge. Caro Don Hermes, che dobbiamo fare? Facciamo l'esorcismo a sta zanzara? Che vogliamo fare? No, basta semplicemente ci dia la benedizione, caro Don Hermes. Ci dia certamente, una... bravo zanzara, ogni bene. No, ma una benedizione da esorcista, Don Hermes. Com'è? Ogni bene, questa è la grande benedizione, perché il demonio è il male. A presto. A te. Walter da Torino, Walter. Buonasera signor Cruciani, buonasera, dica, buonasera a tutti. Senta, io le dico una cosa che è successa a me, ho praticato, quello che dice il prete lì non è assolutamente una falsità. Ci sono persone, personaggi, anche a Torino, dove ci sono delle sette, usano queste forze, chiamiamole del maligno, ma non so, queste forze del maligno, che usano per uccidere le persone, fare venire tumori. No, ma non ho capito bene, un attimo solo, dopo me lo dice, intanto ho la borsa. La zanzara. Io avevo un grande stabile, ero stabilmente sicuro. Ma ragazzi, ma io non ci posso credere, veramente non ci posso credere che al consiglio regionale dell'Emilia Romagna ci sia una persona che sarà sicuramente una bravissima persona, il signor Thomas Casadei. Ci sono casi peggiori, questo è semplicemente la base dell'iceberg, forse la base, una cosa piccola però significativa. I casi peggiori sono quelli dei capogruppo che hanno fatto delle cene per migliaia e migliaia di euro per un anno, ma questo caso è piccolissimo perché è un euro, ma è significativo. Cioè, se uno porta due scontrini da 50 centesimi che gli sono serviti per pisciare o per andare al cesso sul serio, per cagare alla stazione di Parma, uno che è del Partito Democratico, signor Thomas Casadei, beh, amici miei, cioè, se si è fatto rimborsare le sue pisciate, 50 centesimi cada una, o addirittura peggio, le sue cagate alla stazione di Parma, è una questione di principio. Dice: di solito butto via le ricevute della toilette, ma non è vero, le hai portate a rimborso queste ricevute, perché altrimenti come sono finite? Come sono finite negli scontrini? Così, a caso? Ci vogliamo credere che sono finite per caso? Dai! Ma di che stiamo parlando? Beh no, ma di che stiamo parlando? In realtà... No, ma mi sembra un po' demagogico, tu dici che è simbolico, perché è peggio ancora di chi ti ruba, certo, i Rolex, assolutamente, sì. Perché se tu porti a rimborso 50 centesimi per essere andato al cesso alla stazione di Parma, significa che sei proprio con le pezze al culo, cioè sei proprio un poveraccio, se lo dico con... se abbiamo un ospite, però eravamo con Walter da Torino, per concludere. Signor Walter, dica, allora, Walter, che ci vuole dire? Ma volevo parlare un po' della fetta di Halloween, ma non è proprio quello che volevo dire. Volevo dire, lei non ci crede, Cruciani, ma io ho fatto parte di una setta qua a Torino dove veramente noi usavamo i nostri poteri. Io, perché comunque in passato sono stato colpito da un fulmine, ho avuto delle cose strane, un fulmine, e ci usavano per uccidere anche le persone. Perciò i tumori, malattie mentali oppure incidenti stradali succedono per causa, si dice. Perché no, cosa, scusi? Perché c'è qualcuno che con la potenza della mente... qualcuno con la potenza della mente che fa? No, qualcuno, gente che usa la potenza del corpo e del male, anche del male, perché poi si fa del male la gente, usa il proprio potere per uccidere anche. Certo. Sì, uccidere con la telepatia, con la telepatia. Ma più che telepatia è la forza del pensiero. Con la forza del pensiero. Lei crede che con la forza del pensiero uno possa far venire la malattia a una persona, per esempio? No, per esempio uno che vuole fargli del male, anche a lei o chiunque. Ma sa, fosse per questo, fosse per questo sarei già morto da tempo, signor Walter. Cioè, se solo con la forza del pensiero qualcuno mi volesse fare del male, sarei già crepato da tantissimo tempo. Anche uno dotato di grandi poteri, guardi, anche qualcuno. Ma questo lo fa per tanti soldi, lo fa veramente per dei motivi validi, non lo va a fare perché ci sto. Walter, grazie, grazie. Buonasera. Abbiamo con noi Salvatore Tamburro, economista, scrittore, consulente fiscale. Buonasera, Tamburro. Ciao, buonasera. Ciao, giovanissimo, buonasera. Classe 1980. Classe 1980. Tu lo sai, caro Parenzo, che Salvatore Tamburro è uno dei miti del nostro Salvo Mandarà Grillino? Beh, questo non depone a suo secondo favore. Secondo te non depone a suo favore, però... Anche se l'anagrafe lo aiuta, perché avere un brillante giovane economista, io prenderei le distanze da questo Mandarà, però voglio dire... Vabbè. Non è vostro amico il mitico Salvo Mandarà, no? Va, amico, guardi, no, ma in realtà ultimamente ci siamo anche riavvicinati, perché aveva una considerazione pessima. A Mandarà. Aveva una considerazione pessima di Cruciani e Parenzo. Veramente io l'ho sentito oggi pomeriggio e vi mando un abbraccio caloroso a tutti e due. Oh, meno male, ma abbracciamo anche noi Mandarà, perché noi l'abbiamo preso un po' in giro. Lui si era arrabbiato quando aveva detto scappo all'estero, poi ci ha ripensato, no? All'improvviso, non posso stare in questo paese di me. Merda, i mafiosi, eccetera. Ma ho capito che ci sono le soluzioni per restare, per questo è rimasto. Beh, le soluzioni, sa. Ma lei, non ho capito, alla fine appartiene a sto Movimento 5 Stelle o no? Perché c'è stata una discussione ieri sera dopo la sua apparizione Ma in realtà mi hanno fatto sedere vicino il gruppetto del Movimento 5 Stelle, però io sono un economista indipendente che da anni cerco di parlare di sovranità monetaria e di politica monetaria, in realtà, che va contro il diktat delle banche. E questo lo sappiamo. E diciamo che questa cosa è affine, almeno diciamo in questo momento, al Movimento 5 Stelle, perché Grillo sta anche sul suo blog, ha scritto qualcosa sulla sovranità monetaria, sul fatto di rivedere i trattati internazionali, quindi... Cioè, le cose che dice lei sono quelle del Movimento 5 Stelle? più o meno sì, diciamo, o meno, io sì. Vado un po' oltre, nel senso che Grillo è per ritrattare tutti questi trattati di Lisbona. Lei è per stracciarli tutti. Per strapparli proprio e buttarli in faccia a Draghi, come ha detto ieri sera. Tirarli in faccia a Draghi. Allora c'è la signora Michelle Bonef, piccola parentesi, che scrive: c'è Giuseppe Cruciani della Zanzara che dice che io non sono credibile, eppure insistono per intervistarmi. Ma appunto lo facciamo, cara signora Bonef, non lo facciamo mica perché pensiamo che lei sia una criminale. Io per esempio non la ritengo credibile, Parenzo la ritiene un po' più credibile, per cui non è che uno deve essere intervistato semplicemente da persone che la reputano credibile. Cioè, uno viene intervistato anche da persone che dicono: ma scusi, perché ha detto queste cose? Sono credibili o non sono credibili? Per cui non si agiti, noi non siamo ostili, semplicemente io penso che lei non sia credibile quando dice che la Pascale è lesbica. Sulle altre cose non discuto, o comunque non sono così negativo. Sulla questione della Pascale lesbica posso avere qualche dubbio, perché dov'è la controprova, no? Cioè dov'è la... Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Tamburro, io non ho capito, lei ha votato 5 Stelle? No, io non ho votato nessuno. Non ho votato nessuno, però lei era coordinatore del movimento di Marra, del mitico Marra, coordinatore nazionale. È stato nel 2012. Beh, sì, un anno fa. Del PAS, poi diciamo che ci siamo distaccati. Come mai si è distaccato dal professor? Non è difficile distaccarsi dal professor Marra, devo dire la verità. Come mai lei si è distaccato da Marra? Penso che siamo comunque ancora grandi amici, quindi non è questo il problema. Però diciamo, sul programma io lo volevo articolare in un certo modo, lui preferiva farlo in un altro modo. E quindi, ma è molto ricco il signor Marra. Come ha fatto i soldi, signor Marra? Ma non lo so, questo bisogna chiederlo. Con le cause alle banche, anche lei fa causa alle banche, ma è davvero così, come dire, fare causa alle banche? Lei rende, insomma, rende o no? Ma rende, diciamo, rende. Che sì, in questo periodo fare causa per anatocismo e usura, ma anche i ricorsi Equitalia, diciamo che è quello che fanno di più i professionisti in questo periodo. Hai capito, Parenzo, come si fanno i soldi? Il signor Tamburro? No, ho capito. Signor Tamburro è uno che non sopporta le banche, pensa tutto il male possibile delle banche, del potere bancario italiano ed europeo, fa causa alle banche e campa anche attraverso queste robe qui. Questo mi fa molto piacere. Sia a livello piacere, teorico questo. Che pratico, diciamo. Parenzo, che c'è? Dimmi. No, dico, questo mi fa piacere per lui, se guadagna tanti soldi facendo causa alle banche, bravo. Mi fa meno piacere, non me ne frega nulla in verità, il fatto di questo rapporto con questo avvocato Marra. Beh, perché Marra è stato anche ospite nostro, un grande amico, per carità, amico, non esageriamo. Ognuno ha gli amici che vuole, quindi va benissimo, mi ispira grande simpatia e tenerezza, ecco, tutto qua. Non ho niente contro, posso dire niente contro, è simpatico, giovanotto. Un simpatico giovanotto. Ma chi? Tamburro dici? Tamburro. Classe 1980. Comunque, oh, ragazzi, uno 1980 è pure un bel ragazzo, l'ho visto ieri sera. Cioè, tutto sul sito c'ha tutta questa posa da belloccio. Ma devo una dire posa normale, seduta. Vabbè, normale. Insomma, dai, con la camicia. Insomma, è la camicia normale, come tu. Napoletano, beh, grandissimo. Sì, Tamburro, napoletano. Mi sta molto simpatico, lei, devo dire la verità. Però mi dica la verità. Lei. Davvero pensa che Monti, Letta, il Partito Democratico siano tutti al servizio delle banche, chi più chi meno, in particolare loro? Ma è un dato di fatto, non è che lo penso, cioè, è un come dato un dato di fatto? Fatto? Cioè lei pensa che Letta sia al servizio? Membri del Bilderberg, questo è inopinabile. Ma vanno lì a fare due conferenze da Murro su. Vabbè, ma si riuniscono in maniera segreta facendo queste conferenze. Cioè Letta, la stampa non è invitata, voglio dire, che c'è di male? Potrebbero anche invitare un po' di giornalisti, invece non fanno entrare. Sì. I deputati manco li fanno entrare, solo quelli che poi devono candidare in parte successiva. Però, ma a parte questo, diciamo che Monti, Letta sono dei burattini, non sono loro il vero potere. Il vero potere è tutto a Bruxelles, è tutto nelle mani. Chi è il grande burattinaio? Cioè quello, l'uomo più potente in Europa, secondo lei? Chi è l'uomo più potente? Draghi. Singolo, sì, Draghi, ma come la Lagarde, ma il Lagarde del Fondo Monetario. Però non saprei indicare una singola persona. Cioè è tutto un sistema, dice lei. È un'oligarchia, diciamo. Un'oligarchia, cioè gli uomini che governano il mondo sono quello, il presidente. Ma guarda, guardi, è un dato di fatto, perché fu fatto uno studio poco tempo fa proprio in Svizzera che comprendeva qualcosa come 40.000-50.000 società, e alla fine al nocciolo di questo studio si è ridotto a 40 società che governavano il mondo, e tutte queste 40 società, manca a farlo apposta, erano tutte banche. quindi ma bisogna avere paura a dire qualcosa contro le banche, secondo lei? Beh, diciamo che non è facile dirlo, però uno lo deve dire prima o poi, se i giornalisti tacciono, qualcuno lo deve dire. No, però al di là dei giornalisti che tacciono eccetera, ma si rischia di fare una brutta fine? Beh, ci sono persone che hanno fatto anche una brutta fine. Per esempio? Per esempio, un certo Kennedy ha fatto una brutta fine. Ma mica per colpa delle banche? Lei conosce l'ordine esecutivo 11.110 di Kennedy? Cioè, Kennedy è stato ammazzato dalle banche, secondo lei? Sì, se lei conosce l'ordine esecutivo... No, non lo conosco, adesso, questo non lo conosco. L'ordine esecutivo, se vuole che lo dico... L'ordine esecutivo 2110, non so come si chiama. 11.110, in pratica Kennedy ordinava l'emissione di 4,3 miliardi di dollari, che però non erano emessi dalla Federal Reserve, che era la banca privata americana, ma erano emessi dallo Stato. E allora? Ma la posta, dopo tre mesi, l'hanno fatto fuori a Dallas. Cioè, lei sta dicendo che... la nuova tesi adesso, però, Tamburro, io l'ho trattata bene fino adesso, signor Tamburro, però... No, ci sono dei legami molto chiari, cioè, Parenzo, qui. Signor Tamburro, sta sostenendo che Kennedy è stato ucciso dal potere bancario. Dai, signor Tamburro. Ma se non si conosce l'economia e la finanza, in questo caso l'ordine esecutivo, scusami, Tamburro, è ovvio che sembra una cosa così campata in aria. Ma beh, Tamburro. Senta Parenzo, senta Parenzo, sì. Scusi, Tamburro. Che c'è? Dimmi, Parenzo, dimmi. No, voglio dire, Tamburro, la regia di Milano c'è o no? Tamburro? Che ho capito, vuoi mandare... Tamburro? Parenzo non studia. Vuoi gentilmente... Studia, vuoi Tamburro? Vuoi gentilmente andare a fare in culo, questo vorresti dire, Parenzo? Vabbè, adesso non c'è bisogno di mandare a fare in culo Tamburro. Perché semplicemente... No, no ma... No, ma non è così, dai, su, non può essere così. Ma scusami, vabbè, ma a parte queste cose... ormai è un dato di fatto, scusa, l'emissione monetaria è in mano a chi è? Mica in mano allo Stato, è in mano alle banche. Sì, no, d'accordo, però adesso che le banche siano responsabili dell'uccisione di Kennedy, dai, su. Dai. Là ci sono vari collegamenti, ovviamente. No, lei l'ha detta così. Comunque, devi sapere, Tamburro, devi sapere, Parenzo, sì, adesso ho chiamato Parenzo Tamburro, che Salvatore Tamburro sostiene che bisogna uscire dall'euro praticamente ieri, non oggi, ieri, no? Vabbè, dobbiamo stampare noi la moneta, giusto? Stampare noi, avere sovranità monetaria, perché in questo modo uscire, e soprattutto bisogna abbattere prima o poi le lobby bancarie. Ma come si possono abbattere queste lobby bancarie? Ma anche con la forza, Tamburro? No, non c'è bisogno di nessuna forza, basta una legge che impone la sovranità monetaria nelle mani dello Stato. Adesso la politica monetaria nostra è in mano a istituzioni sovranazionali che non sono stati votati da alcun cittadino, basta semplicemente invertire questo. Comunque, da questo punto di vista, Berlusconi è più vicino alle sue posizioni rispetto a... Certo. O no? Ma Berlusconi ha detto qualcosa contro l'euro, di rivedere i trattati, non è che non ha detto nulla. Cioè, meglio del PD? Senza dubbio. Meglio Berlusconi del PD. Lei l'ha mai votato Berlusconi, Tamburro? No. Mai, eh? Mai. Io sto aspettando di votare qualche partito. Alla fine voterà Grillo, su. Alla fine voterà Grillo. No, ho detto, non lo posso ancora affermare, però è ovvio che simpatizza con il Movimento 5 Stelle, perché a me non ne parla di queste cose. Va bene, a presto, la richiamo, grazie. Fanno... Okay, grazie. Grazie, Tamburro, grazie. Tamburro. Andrea, provincia di Rimini, buonasera Andrea. Abbiamo un collegamento fra poco pazzesco, finale di trasmissione pazzesco. Andrea, provincia di Rimini. Pronto? Dica. Buonasera, signor Cruciani, signor Parenzo, buonasera, finalmente da Carpi ce l'ho fatta arrivare a Pesaro. Vada Andrea. È 2:30 che sono al telefono. Io volevo toccare il discorso di quel ragazzo che è stato gay, che si è ammazzato, allungandolo con un po' di punti che si potrebbero... No, me ne dica uno, me ne dica uno. Sul discorso, nel senso, poveretto, quella persona si è ammazzata, aveva tutti i suoi problemi, via dicendo. Nonostante le trasmissioni che avete fatto anche voi. Vabbè Andrea, però vada veloce, è vero che stavo aspettando da un po' di tempo, però se non va veloce niente, vi volevo fare una proposta toccando dei punti, nel senso, ma siccome siete un varietà, una satira politica, tutto quello che volete voi, ma fare qualcosa un po' anche per darci una mano a noi, ma lei è stato un'ora e mezza per dirci questa stronzata. Salvatore da Torino, su, basta. Salvatore, Pronto? Mettere tutti gli ascoltatori insieme. Di che stiamo parlando? Salvatore, dica. Pronto, buonasera. Senti, io volevo fare un intervento su Parenzo che difende tutto campo questi rom. Nulla, niente. Ma come niente? Che vuol dire niente? Cioè, no, ho sbagliato io, scusami, no, mi scusi. Simone da Firenze. Oh, buonasera. Dica. Sì, allora io volevo dire un paio di cose su Renzi, se è possibile anche una su di me. Allora, su Renzi, in campagna elettorale nel 2009, per farvi capire un po' la credibilità, io vengo da quella parte politica. Allora? Diceva che praticamente il 66% della popolazione fiorentina era fatta di anziani. E poi ha fatto chiudere un circolo che era della provincia. Vabbè, però adesso non possiamo verificare tutte queste cose. Un attimo solo, un attimo. Pronto? Ministro? Buonasera, Cruciani. Oh, ministro Cancellieri, buonasera. A quest'ora quasi quasi dico sempre, magari sarà Cruciani. Beh, certo, a quest'ora chi può essere a casa sua? Quasi ora di tutti. Io poi la trovo sempre a casa a quest'ora, sempre puntuale a casa. Beh, certo, ci mancherebbe, guardi. Ma no, dovrebbe stare al Ministero a lavorare sulla giustizia italiana, le carceri, il sovraffollamento delle carceri e quant'altro. Guardi, al di là delle considerazioni che sta facendo, nei pezzi, sì, che io preparo le partite della Magica Roma in maniera responsabile e condivisa, cioè con gli amici davanti ai fornelli. Con gli amici davanti ai fornelli. E chi non salta un laziale è... No, però scusi, di palazzo, lo so, diciamo, sì, sì. Però scusi, ministro, c'è questo difettaccio, c'è tanti fregi, però questo è un difettaccio. Però ministro, adesso siamo in conclusione. Nove vittorie consecutive alla Roma, una cosa pazzesca, no? Certo, però sa che le dico, ha visto con l'Udinese come entrava De Rossi a gamba tesa? E come no? C'è un tiro, mamma mia, cocco bello, quanto l'attizza quell'uomo. Ah, l'attizza sempre De Rossi, l'attizza. Sì, poi c'è, poi mi piace perché è uno dei pochi che non si depila. Cioè, come che non si depila? Il pelo è maschio. Ecco. Ah, è maschio. Non è che lei c'era pure questa abitudine indecorosa della ceretta? No, no, io non mi depilo per niente, no, perché... Le piace il petto villoso. Le piace De Rossi, dunque, le piace De Rossi. Dunque, velocemente, che domani c'è la partita, stasera. Dopodomani, giovedì. Ah, sera, giovedì, adesso sta giocando l'Inter. Ah, sta giocando l'Inter. Vabbè, ministro, sta giocando l'Inter. Lei praticamente non sta al ministero, ma sta davanti alla televisione. No, no, non me ne frega niente di Atalanta Inter. Io sto preparando appunto delle pietanze veronesi per festeggiare. Ah, perché per Roma Chievo. Lei ha questa fissazione di preparare le pietanze della, sì, squadra. Ma guardi che roba buona di cucina veronese, leggera, leggera, un po' di sorpresa. Beh, leggera, leggera, non la direi. La preferita, che nel manzo bollito in salsa preparata al formaggio. Vabbè, e ministro, poi pure Maroni e Durello. Ci sentiamo. Ci sentiamo nei prossimi giorni. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Cucù, cucù. Radio 24. La passione si sente.